È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui 18:34 in questo momento, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Andiamo subito a sentire come riassumono i primi tre giornali della serata, la giornata di oggi, il TG2. Allarme terrorismo, in arrivo anche in Italia i body scanner, saranno installati negli aeroporti di Malpensa e Fiumicino. Alla Casa Bianca vertice con Obama sulla sicurezza. Appello di Napolitano e Fini alla commemorazione di Enrico De Nicola, primo presidente della Repubblica. Mai smarrire, dice il capo dello Stato, il senso del comune interesse generale. Nuova allerta meteo al centro-nord, neve in arrivo a bassa quota in Emilia, Veneto, Lombardia e Liguria. E il gelo fa rabbrividire mezzo mondo, dalla Cina agli Stati Uniti. Arrestato a Roma il rapinatore silenzioso, come in un film di Woody Allen, rapinava supermercati presentando alle cassiere dei biglietti con la scritta «Sono armato». Aveva messo a segno 6 colpi a cavallo di Capodanno. Va bene, questa è la scelta del TG2, andiamo a sentire i primi titoli di Studio Aperto Italia 1. Terremoto in Abruzzo, la casa dello studente crollò perché mancava un pilastro portante. Lo ha accertato la perizia della procura. Sotto le macerie morirono 8 ragazzi. La rabbia dei genitori, ce li hanno uccisi. Vertice alla Casa Bianca per il Consiglio di guerra. Obama lancia il suo pacchetto antiterrorismo. Ci saranno nuove misure di sicurezza negli aeroporti. Anche in Italia arriverà il body scanner. Doppio appello di Napolitano e Fini per ritrovare la coesione nazionale. Il capo dello Stato e il presidente della Camera invitano a non smarrire il senso dell'interesse del paese. Secondo te Berlusconi ne capisce più di calcio o di politica? Berlusconi è Berlusconi, capisce di tutto. Ma guarda, io ho avuto sono stato fortunato di conoscerlo. E adesso è meno presente, però i primi anni che sono arrivati, ed ero uno sbarbatello, 21 anni, 22 anni, sentivo parlare lui, andavo in campo e mi mangiavo l'erba, dall'adrenalina e come mi gasava, perché è davvero una persona che si è costruita da solo e quando parla di un qualcosa è sempre pronto, preparato e ti carica in un modo incredibile. Questo è l'elogio che fece lo scorso settembre, se non sbaglio, Rino Gattuso da Daria Vignardi. Perché vi ho fatto sentire questo stralcio del Gattuso, non so se alle invasioni barbariche o all'era glaciale, comunque insomma, non è importante, perché una delle interviste del giorno è quella di Alberto Costa questa mattina sul Corriere della Sera. Ad essere sincero, dice Gattuso, condivido molte delle cose che dice Bossi, addirittura un'intervista messa in prima pagina e poi nelle cronache politiche, non nello sport. Dunque Gattuso, scelto dal Corriere della Sera come testimonial per dire la sua sulla Lega. Lei, uno del Sud, condivide molte delle cose che dice Bossi. Mi ritrovo in molte delle sue posizioni, dice Gattuso. Ormai è un luogo comune identificare la Lega con gli interessi del Nord. Lo prova il fatto che Bossi prende tanti voti anche al Sud. Ma lei vota Lega? No, non voto Lega. Ma ad esempio apprezzo l'idea del federalismo fiscale. Addirittura Gattuso conosce il federalismo fiscale. Ognuno deve governare da solo, in questo modo viene responsabilizzato molto di più. Certo, non si può pensare di fare tutto dall'oggi al domani, ci vuole tempo, ma la strada è quella. Poi addirittura Gattuso si avventura in una disquisizione sui fondi europei. I fondi che arrivano dalla Comunità Europea potrebbero essere utilizzati meglio, monitorando certe aziende fantasma, messe in piedi soltanto per incassare il denaro. Di solito queste aziende chiudono subito dopo. Gestendo i nostri soldi possiamo aspirare a migliorare. La Calabria non ha nulla da invidiare a nessuno. Dunque un calabrese come Gattuso che fa il tifo per le idee, almeno non nella cabina elettorale, per le idee di Bossi. My own, more than you could ever. non so se l'avete riconosciuta, la voce è addirittura piacevole, è quella di Noemi Letizia, che canta All I Want For Christmas Is You, un brano celebre interpretato da Mariah Carey. E insomma, perché vi facciamo ascoltare questa canzone di Noemi Letizia, cantata da Noemi Letizia, che fu quella che provocò tutti gli scandali successivi in cui è stato coinvolto il Presidente del Consiglio, perché in un'intervista che uscirà, credo, giovedì per un giornale, si chiama Diva e Donna, cosa dice Noemi Letizia dopo quanto successo a Berlusconi? Ho paura. Dunque comunica agli italiani che ha paura anche lei. Ho telefonato al Premier per fargli gli auguri. Quando l'ho visto ferito è stato toccante. Spesso mi sono sentita disprezzata, adesso sto avendo paura dopo quello che è successo a Berlusconi e mi rendo conto che alcune persone non si fanno più scrupoli. Sono felice di stare a contatto con la gente, però a volte penso anche che potrebbe accadermi qualcosa e non giro quasi mai sola. Date una scorta a Noemi Letizia. Però la voce non è male, eh? Bene, abbiamo iniziato in maniera un po' trash, continuiamo sul trash oggi all'800240024, continuiamo in questo modo. I nuovi mestieri di Walter Veltroni, che si occupa certamente di mafia, come sapete, è entrato nella commissione antimafia, eccetera, eccetera, e però, insomma, torna alle sue vecchie passioni, almeno ci torna in maniera più continua. Per esempio, si è inventato, o comunque è stato invitato e ha detto la sua, non ha declinato certamente l'invito. Si è inventato commentatore di pallacanestro a Sky. Sentite. Buonasera. Buonasera Fabio, è un piacere e un onore avere con me Walter Veltroni, un grande esperto di pallacanestro, un grande appassionato di basket. Partiamo appunto da questa ultima partita. Roma batte Milano 77-69. Una squadra che nelle mani di Bonincioli sembra aver cambiato faccia, oppure no? Sì, beh, sono due partite che vince, questa l'ha guidata fin dall'inizio. Milano non è mai stata avanti se non credo al primo minuto, è arrivata fino a 19 punti, poi Milano è risalita con una, diciamo, partita in particolare di Bulleri, di Mordente, degli italiani, della squadra. Bulleri, Mordente, Walter Veltroni, avete sentito bene, è lui. E poi l'ho sentito qualche giorno fa in un bellissimo documentario su Rai Storia raccontare della sua esperienza o comunque dei suoi ricordi di tutto il calcio minuto per minuto, trasmissione storica di Radio Rai, che compie proprio in questi giorni 50 anni. Veltroni, dal basket a tutto il calcio minuto per minuto. Era lo stesso schema fatto da Paolo Valenti in televisione, fatto dopo le partite, ma era come il darsi la mano. Tutto il calcio minuto per minuto dava la mano al 90° minuto. Parliamo di un tempo in cui un povero appassionato di calcio doveva aspettare le ore 19 della domenica per vedere il secondo tempo, prevalentemente il secondo tempo, di una partita in bianco e nero, senza sapere che partita fosse, sperando che fosse la partita della squadra del proprio cuore. Arriva, incredibile rovesciata ed è gol! C'erano quelli che volevano vivere su questo. Nel gran calderone della politica, dove Veltroni parla di tutto il calcio minuto per minuto e commenta le gesta della lottomatica Roma e probabilmente si disinteressa delle candidature alle regionali, anzi sicuramente si disinteressa delle candidature alle regionali, chi fa discutere è il direttore del giornale Vittorio Feltri, che ormai da tempo, dall'inizio di settembre, come sapete, ha ingaggiato una sua personalissima battaglia contro Gianfranco Fini, tanto che i finiani, i cosiddetti finiani, cioè dire i pretoriani di Fini, gli amici di Fini, i deputati che sono vicini al Presidente della Camera, ce l'hanno naturalmente con il direttore del giornale. Questo l'abbiamo preso da una delle migliori trasmissioni su Radio Rai, Un giorno da pecora, che va in onda verso l'ora di pranzo su Radio 2. Claudio Sabelli Fioretti conduce insieme a Lauro, e insomma c'era ospite, oggi era ospite l'ex, credo, non so se sia ancora sottosegretario, comunque insomma il deputato ex AN Adolfo Urso, che addirittura dice tutto quello che sostiene Feltri è falso. Noi vogliamo sapere se è vero che la Polverini è un Epifani in gonnella. Lo dice Feltri? Sì, lo dice Feltri. Sì. Tutto quello che dice Feltri è falso. Tutto quello che dice Feltri è falso. Non ho capito bene. Per principio. Cioè tutto quello che dice Feltri è falso. Ah, così? Domani un attacco, domani io già lo vedo il titolo, sì, del sì. Frocio. Urso, no, certo, sì. Sì, il comunista ladro, di Urso, ladro. Certo. Sì. E vedremo se la previsione di Lauro and Sabelli Fioretti verrà poi confermata dai titoli domani del giornale su Urso. Urso che ha detto: tutto quello che dice e sostiene Feltri è assolutamente falso. C'è sempre la voce di Noemi Notizia che ci fa da sottofondo, perché comunque insomma non dispiace. 800 24 00 24, sempre da Un Giorno da Pecora. Ieri però, prima puntata del nuovo corso, Deborah Serracchiani, che sta molto simpatica al duo Sabelli Fioretti Lauro, a me personalmente mi sta antipatica, non so perché, ho una certa antipatia per le posizioni politiche, non so, mi viene così naturale, però questo non è importante. Cosa dice di Berlusconi? Cosa vorrebbe regalare a Berlusconi? Una mole antonelliana, forse perché più appuntita e fa più male, non lo so. Un souvenir comunque, la mole antonelliana. Sentite. E invece a Berlusconi cosa regalerebbe? Avrebbe regalato a Natale? Un souvenir? No. Ma no, per favore! No, un souvenir nel senso, un pensiero gentile, un souvenir, una robina da mettere vicino sul comodino, tipo, la sera quando vai a dormire, così uno dice penso sempre. Il Colosseo, il Maschio Angioino. Sì, la Torre di Pisa. La mole antonelliana. Ma peggio, la mole antonelliana. Ma signora... Ma che no, la Basilica di San Marco. Ma perché no? Cioè è un pensiero gentilissimo, uno lo mette lì e dice guarda, ogni volta che ti giri pensi a lei. 18.45, traffico. La Zanzara. Eccoci alle 18.47, 800 24 00 24. C'è da dire oggi tra le novità politiche che è addirittura il leader dell'UDC Casini a dare l'ultimatum al Partito Democratico. Va bene Boccia, però entro lunedì bisogna sapere qual è la coalizione, insomma con chi sta Boccia, se c'è Vendola, non c'è Vendola. Situazione molto caotica anche nel Lazio naturalmente. Ma questo si sapeva. Qualcuno dice che il segretario in questo momento è piuttosto latitante, ancora non è tornato dalle vacanze per esempio. Ascoltatori, primi ascoltatori della serata, dalla provincia di Avellino, Ermelindo, addirittura Ermelindo, buonasera. Sì, buonasera, sì, Ermelindo addirittura. No, niente, no, è un nome bizzarro, per questo dicevo. Per sì, carità. Sono in causa con mia madre, ma non fa niente ormai. Detto questo. Da dove viene da Ermelindo? Che origine ha? È un po' strana la questione, è sanscrito, praticamente un dialetto dell'Europa centrale, tedesco, praticamente è un nome particolare, c'è solo in questa parte di Irpinia, non ho capito perché. Ma cosa significa? Dovrebbe significare guerriero di Odino. Guerriero di Odino, ma lei non ha fatto ricerche approfondite? Uno che ha un nome del genere, la prima cosa che fa quando è capace di intendere di volere è fare delle ricerche approfondite sull'origine, no? No, perché Ermelindo uno se lo porta presso da piccolino e paga il dazio a tutti i compagni di scuola fino alle medie, perché si chiama Ermelindo, insomma, con tutti i vezzeggiativi e distributivi. A lei come la chiamavano? Non penso che i suoi compagni di classe la chiamavano Ermelindo. Da Mastrolindo a Vermelindo, insomma, il corollario è proprio grosso, grosso. E lei come si sentiva? Male. E quando è che si è ripreso? Non ancora, ma insomma me lo porto appresso con gioia adesso, perché ce l'ho solo io come nome. Ma no, non credo. Facciamo appello a tutti gli Ermelindi d'Italia di chiamarci a questo punto. Comunque Ermelinda, anzi, mi segnalano. Sì. Ha il significato di scudo del potente. Sì, c'è scudo del potente, vestale di Odino, vestale del bosco, sono più di tanti praticamente. Non è male però, Cioè è una cosa nobile, è una cosa... Ci si abitua anche a questo, no? No, ma uno forse lo porta appresso. Poi devo dire, se potessi tornare indietro non lo cambierei mai, perché se è vero che è guerriero di Odino mi sento uno combattivo, anche per questo la chiamavo. E su che cosa vuole essere combattivo? Io ho sentito l'intervista di Cruciani, di Gattuso, caro Cruciani, e io le dico la verità, io preferisco Gattuso alle cose che ha detto al 99% dei politici italiani, e glielo dico da imprenditore meridionale. Gattuso tutta la vita, problema. Insomma. Ma Gattuso tutta la vita, l'ho sentito parlare di federalismo fiscale, l'ho letto stamattina, parlava di federalismo fiscale, parlava di quelli che sono i finanziamenti all'Italia meridionale, sfido qualche altro politico, ma parlo di levatura nazionale piuttosto che qualche consigliere regionale della Calabria e della Campania ad esprimersi sugli stessi concetti di Gattuso e dire le stesse cose sensate. Beh, devo dire, Benito, che lei ha ragione su questi. I fondi che arrivano dalla comunità europea potrebbero essere utilizzati meglio, monitorando certe aziende messe in piedi solamente per incassare il denaro. C'è un politico della Calabria che ha il coraggio di dire una cosa del genere, magari la dice, però sempre con dei, no, dei distinguo forse, ma perché? No, signor Cruciani, guardi, mi spiego ancora un poco meglio. Io sono campano, sono qui ad Avellino. La regione Campania riesce a spendere il 23% dei fondi destinati dalla Comunità Economica Europea. Cioè, se fossero dei miei dipendenti, io li manderei a casa, a calci, lei sa bene dove. Nel sedere, lo dica Ermelindo, senza problemi. No, li manderei a calci in culo, senza problemi, tutto qua. Perché se io ho un manager che mi spende il 23% del capitale che mi metto a disposizione, perché non è in grado di spendermi l'altro 77%, perché è incapace o negligente, io lo mando a casa. E io Gattuso tutta la vita per due motivi. Uno conosce la vita, due è uno che va in giro, pensa che non abbia più grossi problemi di natura economica. Tre è uno che fatica, perché al di là dei soldi che prende è uno che fatica, e quindi Gattuso tutta la vita. Io poi ho sentito degli interventi qualche volta di qualche politico che lei ospita. Per carità, sempre di meno, sempre di meno. La calce. Sempre di meno, Ermelindo, sogno una trasmissione in cui i politici non intervengono, se no per scherzare, ridere e giocare un po' sulla notizia di attualità. Mai parlare di cose serie perché tanto non si tira fuori nulla, e la ringrazio. Tra l'altro Gattuso parla della statale ionica 106, ci sono due suoi amici che hanno fatto un incidente e sono morti, fa più morti la 106, la famosa statale ionica, la strada della morte, di una guerra. Sono anni che la gente si ribella a queste situazioni, ma nessuno fa niente. Le chiedo scusa, vedere quello che fa Gattuso a Schiavonea Marina per quanto riguarda il suo luogo natale e quello che ha fatto per la Calabria, e vedere se c'è qualche altro politico che ha fatto lo stesso. Va bene, adesso non facciamo lo spot di Gattuso, viva Gattuso, no, tutta la vita, certamente, però quello che ha detto è significativo. Speriamo che sia spontaneo, così, che gli sia venuto spontaneo e non gli sia stato suggerito, ma questa è una piccola cattiveria. La ringrazio, restiamo sempre al sud. Massimo da Lecce, poi andiamo a Barese, a Torino. Massimo, buonasera. Buonasera a lei, Cruciani. Dica. A proposito di Urso, delle sue affermazioni circa, insomma, le fesserie che direbbe Feltri, che Feltri dice sempre il falso, diciamo, no? Io dico che non è così, diciamo, vabbè, sicuramente non è così che Feltri dirà sempre il falso, però quando si mette a dire delle fesserie le dice veramente bene, e ci stiamo a parlare su per un mese e mezzo, due mesi, come è stato col caso Dino Boffo, del povero Dino Boffo. Voglio dire, non sarà vero che sarà tutto falso, però ogni tanto qualche bella bordata di fesserie le fa Feltri, e fa anche dei danni. A chi? A chi? A chi fa dei danni? A Dino Boffo, alle persone, alla redazione dell'Avvenire ha fatto dei danni seri, o a chi lo ascolta e ci crede a quello che dice, quando dice le fesserie fa dei danni seri. Non è che dobbiamo dire che Feltri voglio dire non fa dei danni, però Feltri, Massimo, mi scusi, dire come ha fatto oggi Urso che tutto quello che dice Feltri è falso, anche questo mi sembra francamente un'esagerazione. Sì, l'avrà detto in un momento, diciamo, chiaramente non è possibile dire che tutto quello che dice Feltri è falso, perché non è così. Però diciamo che quando Feltri si prefigge un obiettivo, usa anche le falsità. Questo lo possiamo dire o no? Ed è il caso di Dino Boffo, è lampante. Poi mi deve spiegare Feltri, e spero che sia in ascolto o qualcuno per lui che glielo dica, mi deve spiegare Feltri perché, Dio, anche se fosse vero quella storia di Dino Boffo, le accuse eccetera, mi deve spiegare perché Dino Boffo, in base all'articolo 21 della Costituzione, che si dà la libertà di espressione a tutti, non può dire la sua sulla vita privata di un premier, perché secondo lui aveva questo decreto penale contro. Mi faccia finire, guardi. Sì. Mi faccia finire. Ma guardi che Feltri mica ha contestato la possibilità di Boffo di dire la sua. Feltri ha sostenuto che Dino Boffo non poteva permettersi di parlare di queste cose, visto quello che aveva accettato, quel decreto penale contro. Sì. Io dico, come può Feltri usare due pesi e due misure? Perché Renato Farina, che ha avuto due condanne contro, e lui ha patteggiato le pene, uno per concorso in sequestro di persona e uno perché ha pubblicato notizie false dietro compensi. Mi deve dire Feltri perché Renato Farina può tranquillamente, da opinionista, perché è stato radiato tra l'altro dall'ordine dei giornalisti, può tranquillamente dire la sua. E Dino Boffo no. E Dino Boffo no, me lo deve spiegare Feltri questo doppio. Io lo chiedo a lui. Grazie, grazie Massimo. A voi, buonasera. Da Torino, Roberto, buonasera. Pronto? Roberto, mi dica. Buonasera, buonasera. Aspetta, stengo la radio un attimo, mi fermo. Meglio, sì, si fermi. Sì, eccomi qua, eccomi. Dove si trova, Roberto? Mi trovo a Moncalieri, in provincia di Torino. Moncalieri, sta tornando a casa, no? O abita a Moncalieri? Abito a Moncalieri, abito a Moncalieri. E allora, io ti volevo intervenire per la storia della Polverini. Io non so dove sia lo scandalo. Se Feltri fa un ragionamento matematico, per esempio, quest'anno, nelle prossime votazioni, forse Italia perderà voti, e io sono d'accordo con lui, ma non perché Berlusconi li perde, perché grazie a Fini li perde. Quindi la Polverini, essendo in un certo orientamento politico, probabilmente farà perdere voti alla PDL. Quindi non so dove sia lo scandalo, se Feltri ha pronosticato questo. Volevo anche intervenire su un altro ascoltatore che ieri sera ha paragonato Travaglio a Feltri, e mi pare c'è da ridere, perché insomma parliamo di un autentico giornalista contro uno che comunque non fa altro che sputtanare tutti. Vabbè, Roberto, adesso queste sono le sue valutazioni su Travaglio e su Feltri. Ognuno ha le proprie simpatie. No, non è così. Paragonare uno che scrive da 50 anni in un certo modo con uno che... Vabbè, a lei piace più Feltri di Travaglio. Diciamo che non ci sono cose oggettive qui, non stiamo parlando di verità scritte sui muri. Sì, voglio dire, a me piace Cruciani perché bastona Berlusconi, bastona Prodi, bastona Bersani, mentre Travaglio bastava soltanto Berlusconi. Quindi in questo senso, sulla Polverini io mi schiedo assolutamente con Feltri, per me non è un affare candidato nel Lazio. Poi su queste altre uscite di D'Urso, anche qui lei dirà che sono simpatia, ma non, come si fa a dire che Feltri, tutto quello che scrive Feltri sono bugie. Sì, questo anche a me sembra piuttosto esagerato. Va bene. Ieri sul giornale Feltri ha fatto i documenti che Fini non più di 5 anni fa sventolava, che Fini era contro l'immigrazione clandestina, che Fini diceva che non si poteva imbarcarli tutti, questa è la realtà. Ho capito, ma si può anche cambiare idea, no? Siccome Feltri le ha cambiate nel corso della sua vita, anche professionale, le idee, non vedo perché non le possa cambiare Fini da questo punto di vista. Grazie Roberto. Francesca da Varese, buonasera. Buonasera, bentornato. Grazie, mi dica. Ascolti, ma lei è stato via proprio sulla luna, perché... Io abbastanza, sì. La faccenda di Noemi Letizia, la canzoncina orribile, sì. No, lei è chi in sala d'incisione ce l'ha mandata, ce l'aveva già proposta il bravo Maurizio. Francesco, l'ho riproposta. No, lei l'ha qual presentata è come se fosse un... Io non l'ho presentata, l'ho presentata perché una notizia di oggi... No, ma allora lei non ha ascoltato la trasmissione di Maurizio, quando la conduceva Maurizio. Non lo so, Francesca, non è importante, ho mandato questa canzone... No, ma gliel'ho detto, perché Maurizio, molto, molto, diciamo, in maniera un po' complice con chi non la pensa esattamente in un certo modo... Che noia. Ha aggiunto anche un bel commento, sì, ricordando le parole della pin-up di Casoria, quando diceva alla fine di aprile, quando è cominciato a montare lo scandalo, ci penserà Papi alla mia carriera politica. Beh, adesso me lo ricorda, ce lo ricorda lei, queste e cose quindi, ce le ricorda lei e va benissimo Maurizio così. Maurizio ci ha mandato la canzoncina orribile, però con questo commento ed è stato veramente gradevole. E va bene, lei ha trovato gradevole, invece ha trovato sgradevole adesso. Pazienza. In realtà io avevo chiamato perché appunto prima che lei parlasse brevissimamente della faccenda Fini... degli attacchi di Feltri, volevo proprio dire che per quanto gradevole la trasmissione, sempre io la seguo sempre nei limiti del possibile, trovo che ci sia molto doppiopesismo da parte sua, no? Perché lei ha fatto settimane intere prima delle manifestazioni di ottobre e di quella di dicembre del Popolo Viola, quella per la difesa dell'informazione e quell'altra appunto del Popolo Viola, alle quali io tra l'altro ho partecipato. Non ne dubitavo. Sbeffeggiando il PD, mi si nota di più se vado, mi si nota di meno se non vado, le divisioni, chi ci va, chi non ci va. Ecco, adesso perché non parliamo un po' di quello che sta succedendo all'interno del PD? E infatti ne stiamo parlando, c'è il giornale radio delle 19, ne stiamo parlando, forse lei non se ne è accorta in questo inizio di trasmissione, 800 24 00 24, ci sentiamo tra un quarto d'ora, restate qui dopo il giornale radio. La Zanzara. Siamo qui alle 19:15, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta e andiamo a sentire subito i titoli del TG3. Napolitano e Fini alla commemorazione di De Nicola, superare i conflitti nell'interesse generale, serve una nuova coesione nazionale. Casini in Puglia o Caiaboccia, ma il PD scelga, nel Lazio mandato esplorativo a Zingaretti, Bonino per i radicali, scontro Feltri-Finiani. Segreto di Stato parziale sui rapporti tra Telecom e lo 007 Mancini, indagato per spionaggio illegale, dossier sismi, chiesto il giudizio per Pollari e Pompa. A rapporto da Obama i vertici della sicurezza, forse misure per i responsabili di errori, Yemen, riaprono due ambasciate, attacco ad Al-Qaeda. Contro il rischio attentati anche negli aeroporti italiani, il body scanner, discorso strumento che mette a nudo i passeggeri. Arriva la Befana con la calza più leggera per i rincari, nonostante il calo dell'inflazione. Epifani è un altro segno della crisi. Nella cattedrale di Agrigento Presepe, senza Re Magi, un cartello informa, li hanno bloccati alla frontiera con gli altri immigrati. Il tribunale francese riabilita Briatore, annullata la radiazione a vita dalla Formula 1, era stato espulso per il finto incidente a Singapore. E oggi è certamente la giornata di Flavio Briatore, uscito trionfante dalla sentenza di un tribunale ordinario contro la sentenza della Formula 1 su Secondo Canale, su Rai 2, in questo momento trasmissione Secondo Canale, TG2 Gulliver del 79 con Carlo Verdone, sentite. Diceva la legge reale, ma quale legge reale? Ma dice la legge, la posso... Io devo lasciare qua, guardi, c'è porto te, nessuno mi può dire niente. Dicevo prima che mi fanno la festa, a me faccio la festa a loro. Dicevo, che gliela fai con questa? E questa chi ti ha dato questo? Te pari? Signora, mi fa il conto per piacere. Grazie. Quant'è? 220. 220? Sì. Scuticino, come fa? Sì, grazie. Ecco, era Verdone che anticipava tutte le discussioni che ci sarebbero state praticamente 30 anni dopo sul porto d'armi, sulle pistole, eccetera, eccetera, per la difesa personale. I titoli di Sky TG24. Obama chiama a rapporti suoi sulla sicurezza in Yemen, riapre l'ambasciata americana. Il ministro Frattini a Sky TG24 dà il via libera al body scanner agli aeroporti. Appello di Napolitano per la coesione nazionale, Fini invoca i valori condivisi. Silvio Berlusconi al segreto di Stato con i limiti sui rapporti tra servizi segreti e Telecom. La Procura di Perugia invece chiede il rinvio a giudizio per Pollari e Pompa. In Calabria via libera all'agenzia per la confisca, risposta di Maroni alla bomba di Reggio. Maltempo sull'Italia centrale, in Garfagnana un paese rimane isolato per una frana. Catturato l'ineffabile bandito muto, rapinava i supermercati mostrando bigliettini. La rivincita di Briatore, la Corte di Parigi annulla il bando a vita dalla Formula 1. È giallo in America per la morte dell'erede dell'impero farmaceutico Johnson & Johnson. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Non perdiamo altro tempo. Boccia presenti subito la sua coalizione, vendo la faccia a quello che vuole, ma usciamo da questo gioco che ci sta impantanando tutti. Il PD deve scegliere tra la strada del riformismo e la strada che viene paralizzata dai veti dell'ultrasinistra. Se il PD aspettava una risposta dai centristi arriva un ultimatum. Per la Puglia bene il nome di Boccia, dice insomma Casini, ma il PD scelga fra noi e Vendola. Basta pantomime, basta primarie. Lunedì Boccia presenti candidatura e coalizione, altrimenti, avverte Casini, comincia un'altra partita. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, tremulo come una foglia, foglia, foglia. Beh, situazione ancora abbastanza confusa. Avete sentito dalle parole di Casini che dice al Partito Democratico scegliete Boccia ma fate fuori Vendola. Questa è la situazione in Puglia. 800 24 00 24. Ancora un po' la canzone, fatemi sentire la canzone sulla Puglia e non c'è più. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Se c'è la decisione su Boccia, anche se ancora da definire, coalizioni, Casini, dentro, fuori, eccetera, nel Lazio c'è ancora questa pantomima del mandato esplorativo, di cui abbiamo parlato già ieri con Luca Teresi, il mandato esplorativo a Nicola Zingaretti, che non è sicuro di vincere nel Lazio, figuriamoci, dunque tentenna. Allora, per parlare di tutt'altro, c'è una polemica abbastanza curiosa e divertente, devo dire, su cosa? Sulla libreria Billy. La libreria Billy è una famosissima libreria molto venduta dell'IKEA. Però cosa succede? Succede che è anche il nome di una nuova rubrica all'interno del TG1 dedicata ai libri. Prima si chiamava Beniamin, quando era direttore Gianni Riotta. E adesso è stata chiamata Billy ed è condotta da Marco Frittella, notista politico, contro la decisione di chiamarla Billy, perché ricorda appunto la libreria Billy, e poi per altri motivi che sentiremo, si è scagliato Aldo Grasso, il critico televisivo del Corriere della Sera, in questo modo. Naturalmente lo snob, il parruccone sono io, ma che cosa è successo? Perché ho fatto arrabbiare quest'uomo? Alla domenica sul TG1 c'è una rubrica di libri. Prima si chiamava Beniamin e adesso si chiama Billy. Io per divertimento ho provato un po' a chiedermi perché si chiama Billy e ho ipotizzato alcune cose: il cane del direttore, Billy Costa Curta, la vecchia bevanda Billy. Ne ho saltato uno, ma vi spiego perché. Provate a cliccare su qualunque motore di ricerca la parola Billy più lib. L-I-B-R, quando arrivate alla R, in automatico vi dice Billy Libreria dell'IKEA. Io mi sono detto, ma figuriamoci se questi reclamizzano l'IKEA. Invece è successo esattamente questo, che il giorno dopo il forum del Corriere è stato inondato di mail, il mio telefonino ha continuato a squillare, tutti mi dicevano, guarda che è proprio Billy la libreria dell'IKEA. E insomma, scandalo secondo Aldo Grasso, perché una rubrica del TG1 vista da milioni di persone viene chiamata come la libreria dell'IKEA. Addirittura, dice Grasso, potrebbe essere pubblicità occulta nei confronti del colosso svedese. Secondo me l'IKEA non ha bisogno, soprattutto per quello riguarda la libreria Billy, di pubblicità. E sentiamo la replica di Marco Frittella, molto piccata, l'interessato, il conduttore, che è anche notista politico ed è rimasto a fare notista politico, diciamo al contrario di quello che sostiene Aldo Grasso. Buongiorno, bentornati a Billy. Prima di cominciare però dobbiamo una risposta ad un critico televisivo al quale non piace il nome della nostra rubrica. Ci ha messo un po' a capire perché ci chiamiamo Billy, ma quando ci è arrivato ha sentenziato che è cosa banale, preferiva Beniamin e ce ne dispiace. Billy è uno scaffale conosciuto da tutti, non un filosofo il cui nome è noto solo a pochi e sono scelte diverse. Su quello scaffale ognuno mette i libri che vuole. Noi, che non siamo la fiera letteraria, ma ci rivolgiamo a milioni di telespettatori, diamo qualche informazione utile, anche qualche valutazione. Consapevoli, caro critico, che la diffusione popolare della lettura è un fatto democratico. Lo snobismo invece serve solo a qualche nascondimento solipsistico. Per noi la scelta della divulgazione è obbligatoria e se a qualche parruccone non piace, pazienza. E addirittura parruccone, snob, nascondimento solipsistico, tutto questo si merita Aldo Grasso, che certamente ci va giù pesante, divulgatore di scaffali di librerie, prima la rubrica era fantastica e poi l'accusa, pubblicità occulta. Prima si chiamava col nome di uno scrittore, di un autore, e quindi mirava molto ai contenuti ed era anche una linea interpretativa. Billy è uno scaffale, quindi diventa un deposito. Ho fatto questi ragionamenti. Ti hanno scatenato l'ira di questo signore che si chiama Marco Frittella e prima faceva il notista politico e adesso invece si occupa di divulgare scaffali di librerie. Però, visto che questo Marco Frittella si è arrabbiato e io non voglio arrabbiarmi, però voglio porre una domanda a questo punto. La voglio porre al direttore del TG1 e al direttore generale della RAI. In questi casi, chiamare una rubrica Billy, non c'è il rischio della pubblicità occulta? Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, tremulo come una foglia, foglia, foglia, tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. A me poi fa impazzire questa scelta dell'UDC di Casini in Puglia, perché è un po' diversa dalle altre scelte. Se uno va a vedere cosa sta succedendo nelle altre regioni, ci si accorge che in realtà l'UDC appoggia il candidato che ha più possibilità di vittoria, diciamo la verità, in tutte le regioni. In Puglia la situazione è un po' diversa. Certamente con Emiliano la partita per il PDL sarebbe stata complicata, con Boccia diciamo che il PD se la può giocare. Dunque può essere che si tratti di una scelta strategica, oppure anche per il PDL la situazione in Puglia non è non è poi chiarissimo, ancora non si conosce il candidato, potrebbe essere la Poli Bortone, potrebbe essere l'ex magistrato D'Amburoso, chissà. Intanto, sempre da Un Giorno da Pecora, rubiamo, perché è una caratteristica della Zanzara, l'intervento di Cicciolina sul Partito dell'Amore. Diciamo abbastanza scontato, però sentire la voce di Cicciolina che parla, era una delle fondatrici del Partito dell'Amore insieme a Mona Pozzi, fa sempre una certa impressione. Innanzitutto, insomma, sentiamola, dice: è disposta addirittura a tornare in politica se ci fosse il Partito dell'Amore. Il presidente sa che adesso vorrebbe rilanciare il Partito dell'Amore, ma se ne ha sentito parlare. Beh, io non escluderei la possibilità al momento stesso che del PD, visto che PD è il Partito dell'Amore, potrebbe anche essere. Beh, sì, sì. PDL dell'amore, l'amore senza il nostro. Lo lanci un grandissimo. Diciamo il suo ecco, dicendo verso il popolo italiano, che tra l'altro merita, perché il popolo italiano è bellissimo e meraviglioso, insomma tutte quelle persone che fanno, governano l'Italia devono dare il massimo e di più, parlo di quelli che governano. Questo è il vero Partito dell'Amore. E lei che è stata, diciamo, un precursore per quello che riguarda l'entrata delle pornostar o comunque il sesso e la politica, lei sarebbe anche disposta a tornare nell'arena politica. Se il presidente Berlusconi dovesse proprio rifare il Partito dell'Amore, lei sarebbe disposta e interessata a tornare nella vita politica del paese? Certamente di sì, mi piacerebbe assolutamente, anzi. E cosa vorrebbe fare? Mi candiderei volentieri. Quindi si candiderebbe con Berlusconi nel Partito dell'Amore, ma che ruolo vorrebbe avere? Dell'amore, ovviamente. Sì, vorrebbe occuparsi dell'amore. Vice ministro Urso. Sì, sottosegretario all'amore. Sottosegretario all'amore. Sì. Ma perché sottosegretario dell'amore si occupa tutto ciò che è sull'amore. L'amore poi è una parola così grande che comprende tante cose. Signora Cicciolina, Adolfo. Rapporti col Parlamento. No, signora Cicciolina, il vice ministro Urso proponeva sottosegretario o ministro per i rapporti col Parlamento. Sottosegretario per i rapporti col Parlamento. Sì, però, vogliono fare la Santa Che? Vogliono fare la Santa Che. Urso è arrabbiatissimo per questa ipotesi che facciano la Santa Che sottosegretario. Ne parleremo più avanti con Francesco Storace. Intanto 800 24 00 24, il mondo si ribalta, perché abbiamo i calciatori che parlano di politica, come per esempio Rino Gattuso in un'intervista oggi al Corriere della Sera. L'abbiamo già detto, condivido molte delle cose che dice Bossi, mi ritrovo in molte delle sue posizioni, non è vero che la Lega fa gli interessi solo del Nord, apprezzo l'idea del federalismo fiscale, eccetera, eccetera, i fondi della Comunità Europea, uno scandalo, Gattuso. Secondo te Berlusconi ne capisce più di calcio o di politica? Berlusconi è Berlusconi, capisce di tutto. Vabbè, diciamo che questa intervista al Corriere della Sera, Gattuso ha fatto un passo avanti, qui c'era solo l'elogio di Berlusconi, ma dicevo, il mondo si ribalta, perché Gattuso, un calciatore, parla di politica e i politici invece fanno i commentatori, diciamo, di qualsiasi cosa, lo sappiamo, anche di gastronomia, spesso in questo caso di sport. Walter Veltroni ritrova se stesso da quando si occupa di politica un po' meno, diciamo, un po' meno in prima fila. E nel basket commenta le partite, ma in maniera anche così puntuale, citando i singoli giocatori, dal Dui, gran tifoso della Lottomatica Roma. Buonasera Fabio, è un piacere e un onore avere con me Walter Veltroni, un grande esperto di pallacanestro, un grande appassionato di basket. Partiamo appunto da questa ultima partita. Roma batte Milano 77-69. Una squadra che nelle mani di Bonincioli sembra aver cambiato faccia, oppure no? Sì, sono due partite che vince, questa l'ha guidata fin dall'inizio. Milano non è mai stata avanti se non credo al primo minuto, è arrivata fino a 19 punti, poi Milano è risalita con una, diciamo, Veltroni che commenta la pallacanestro e Veltroni che ricorda tutto il calcio minuto per minuto ai suoi tempi. Era lo stesso schema fatto da Paolo Valenti in televisione, fatto dopo le partite, ma siete sorpresi? Gattuso che commenta la politica e ha la sua idea sul federalismo fiscale, su Bossi, sui fondi della Comunità Europea, e Veltroni che invece ci dedica queste perle di sport tra il basket e il calcio alla radio. Ci sentiamo dopo la borsa. La Zanzara. Siamo qui alle 19.32, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Iniziamo subito con gli ascoltatori e andiamo a Taranto da Silvio. Buonasera. Buonasera Silvio. Purtroppo la sento un po' male perché sono in un mall, praticamente in un mega ipermercato. Dove si trova? In un outlet per caso, no? No, non è un outlet, sto cercando delle cioccolate per riempire le calze da regalare questa sera. Ah, ecco, le calze, per riempire le calze. Beh sì, perché qui si usa andare in giro la notte, i bar rimangono aperti, sì, e si comprano i dolci e le cioccolate per i bambini. Diciamo, è l'unica cosa magica e suggestiva che ci è rimasta in questo tempo di consumismo. Però insomma fa parte del... Adesso non esageriamo, insomma, non è che l'unica cosa tradizionale che è la sera della Befana. Guardi, è magica. La Befana, io ricordo da piccolo, era veramente una cosa magica, come Santa Cecilia prima del Natale. Io da piccolo andavo sempre a Piazza Navona a Roma, dove c'è una grande tradizione, ancora un po' sfumata adesso, un po', come dire, impallidita. Ora bisogna fare attenzione alle impalcature in Piazza Navona. vero. Ma lei dove si trova? A Taranto città o in periferia? Io vivo qui a Taranto città, qui in città praticamente. Niente, io mi è molto piaciuto il suo intervento riguardo quando ha detto che il Partito Democratico ora deve dipendere da Casini, che dà un limite di tempo, no, per decidere la coalizione. Io da pugliese sono veramente sconcertato. Per esempio, io sono un elettore di centrodestra, però ho votato veramente con piacere Nichi Vendola 5 anni fa. E francamente vedere la politica che si perde in giochi, in ritardi, quando gli interessi della politica, dei governatori, sono gli interessi del territorio, non i loro interessi di bottega, di correnti. E francamente io da parte del Partito Democratico, con Emiliano che entra, si ritira, poi riscrive una lettera, è veramente... La cosa che a me sconcerta è anche a destra, per esempio c'è un personaggio, la Poli Bortone, ex Movimento Sociale, Alleanza Nazionale, lei fa il partito Io Sud. No, Io Sud, lei la Puglia rappresenta tutto il Sud. Sì, tra l'altro aveva minacciato prima di uscire dal PDL, c'era stata la possibilità addirittura di un'alleanza con Casini, adesso non ricordo bene, da parte della Poli Bortone, che adesso sembra intenzionata in realtà a correre insieme al PDL o addirittura essere lei la candidata. Anche lì c'è grande confusione. Adesso io non seguo quotidianamente le vicende pugliesi. Si parlava anche del giudice, no, quello dell'antiterrorismo, D'Ambruoso. Sì, il problema, per esempio, la Poli Bortone l'anno scorso si è presentata alle provinciali di Taranto, ha sostenuto il candidato di centrodestra. Al ballottaggio e invece poi sostenuto il candidato di centrosinistra. Cioè, veramente, queste cose, questi giochi, ha ragione la Lega Nord. Sì, Silvio, la ringrazio. Adesso sentiamo male la sua telefonata, perché lei si trova all'interno di questo centro commerciale a fare le sue spese per la Befana, in particolare a comprare tonnellate di cioccolata, e noi siamo contenti per lei. C'è un problema naturalmente per quello che riguarda il Partito Democratico, perché non è che il Partito Democratico abbia detto esplicitamente per bocca di Bersani, del suo segretario, che non vogliamo più Vendola perché ha fatto male, perché non ci interessa più, eccetera. Non l'ha detto mai. Volevano provare attraverso Emiliano se l'alleanza con l'UDC poteva poi essere verificata attraverso le elezioni in Puglia. La cosa ha poi preso un'altra piega. La ringrazio. Andiamo a Napoli. Giovanni, buonasera. Buonasera, dottore. Dica. Io sono terrorizzato dall'UDC e dalla possibilità che gli italiani debbano ritornare a essere democristiani. E le spiego anche perché. Un partito, potremmo dire, quasi dai facili costumi, da un abito clericale, che in Campania governa la provincia, mentre il suo capo indiscusso, Ciriaco De Mita, ha governato sino all'altro ieri la sanità in Campania con il suo assessore Montemarano. Casini al nord non si sa. Scusi, perché governa la provincia, lei dice? È perché, voglio dire, l'UDC fa parte della coalizione di centrodestra della provincia di Napoli e governa con il PDL. Ah, governa col PDL, non è che governa l'UDC la provincia di Napoli. No, è al governo nella provincia di Napoli. È al governo e non mi meraviglierei. Ci sta. Così potrebbe come... anche appoggiare un candidato di centrosinistra alla regione, così insomma fa filotto, no? No, diciamo, già lo ha fatto, nel senso che l'UDC a Napoli per salvarsi si è affidata a Ciriaco De Mita. Ciriaco De Mita però è nel centrosinistra più o meno, per cui... Attenzione, Ciriaco De Mita è UDC, è un uomo che non guarda, la sua massima destra è il PD. No, però adesso al di là di questo, Giovanni, qui siamo, potremmo arrivare al paradosso che l'UDC ha il governo alla provincia di Napoli con il centrodestra, ma potrebbe appoggiare un candidato di centrosinistra in Campania. Vero, così come non sappiamo ancora chi appoggerà in Veneto e in Puglia, ma il mio problema non è tanto oggi, è un campanello d'allarme oggi, perché quando verrà la fine politica di Berlusconi, quello che succederà, noi possiamo ricadere inevitabilmente, il mio è quasi un appello, nelle maglie di questo non pensiero, non schierarsi, oppure addirittura peggio, se lei potesse chiedere oggi a Casini, ma lei dove va? Lei, Casini risponderebbe che questa è una strategia precisa, rompere un meccanismo bipolare e quindi ritornare... però è legittimo non che a Casini non piaccia questa legge elettorale, che a Casini non piacciono questi assetti. Certo, trovo un po' contraddittorio che ci sia lei così a macchia di leopardo dove conviene o perché si è sicuri di vincere o perché si vogliono provare nuove coalizioni e nuovi patti politici. Sono terrorizzato, da liberale di destra sono terrorizzato. Vabbè Giovanni, insomma, ci sono altre cose per essere terrorizzati, secondo me. La ringrazio, anche se la sua è certamente una metafora. Roma, Mauro, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Io voglio fare un breve intervento, magari in ritardo, sulle esternazioni di Brunetta sull'articolo 1 della Costituzione, perché io ho preso in mano i principi fondamentali che peraltro avevo letto negli anni, ho 50 anni, molti anni fa, in maniera abbastanza superficiale. E appare che la nostra Costituzione, dico appare, sia stata scritta con i piedi, appare. E per esempio, guardavo l'articolo 3, no? In cui si cita che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, bla bla bla, distinzione di sesso, eccetera. Poi andiamo al comma 2, dove si dice testualmente: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, quindi parliamo di cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori. Però che mi vuole dire, Mauro? Non cominciamo a citare gli articoli della Costituzione, perché altrimenti... No, perché io mi chiedo, ma sono sfumature o marchiani errori? Perché se sono sfumature, allora parliamo di scuole ideologiche che, diciamo, a distanza di 40, 50, 60 anni forse andrebbero ammodernata, ecco. Ma sì, perché guardi, Mauro, io sono abbastanza d'accordo, non ne vedo la necessità, come dire, impellente, no? Però sono abbastanza d'accordo, perché poi si tratta sempre di definizioni che trovano il tempo che trovano. Sono abbastanza d'accordo con Brunetta sull'articolo 1, insomma, che non abbia poi questo grande significato. Sulla necessità di mettere all'interno della Costituzione delle parole come... libertà o altre definizioni, ripeto, non mi sembra una delle cose su cui intervenire subito. La ringrazio. 800 24 00 24. Andiamo a Taranto. Alessandro, ancora Taranto. Pronto? Buonasera Alessandro, che succede questa sera? Taranto, mi state chiamando in molti. Ma sarà che abbiamo trovato la linea, un canale libero stasera. Cruciani, io sono veramente felice di sentirla, perché mi accompagno in molti viaggi in macchina la sera, anche se condivido raramente le sue idee, ma questo insomma non vuol dire niente. Non vuol dire nulla. Volevo parlare dell'intervento di Urso, che non vorrei sottovalutarlo, perché in effetti esprime un disagio, che è il disagio delle persone come me e delle persone di destra, perché Urso certamente è uomo di destra e non da poco. Non e da qual poco è il disagio? Il disagio è quello di non vedersi riconosciuti all'interno di quelli che attualmente rappresentano il panorama politico attuale, la destra o il centrodestra. Cioè, solo perché lo dice Feltri, scusi. No, perché Feltri dovrebbe rappresentare, diciamo, da parte stampa un certo orientamento politico in questo momento, ma le persone che sono veramente di destra, cioè parlo di chi porta dentro certi valori che sono quelli della destra legalitaria, insomma non le so ora dire, la destra per la quale votava il giudice Borsellino in Sicilia, tanto per chiarirci, non si trovano oggi riconosciuti, quindi Urso esprime un disagio che è quello dell'uomo di destra attualmente. Ma che significa, come secondo lei, la destra legalitaria? Mi scusi, cosa significa concretamente? Insomma, la destra, i valori della destra, non è che esiste il partito fascista o amenità del genere, sono quelle di una destra storica, legalitaria, sociale, eccetera. Insomma, la destra di Almirante. Insomma, scusi, però, tanto per essere concreti e non parlare in maniera astratta. No, non mi sembra, se vogliamo per esempio parlare delle leggi ad personam o di alcune leggi fatte approvare dal centrodestra, non mi sembra che Fini o i Finiani o chi era vicino al presidente Fini negli anni scorsi abbia fatto grande chiasso, insomma, si sia posto in maniera particolare, diciamo la verità. Non so se attraverso queste cose passa il suo concetto di legalità. No, infatti, ecco perché le dicevo il disagio dell'uomo di destra, perché io non mi sento assolutamente rappresentato da Fini e da persone come lui attualmente. Pertanto sono costretto a riconoscermi in Di Pietro. Cioè io, uomo di destra, ritengo attualmente che l'uomo più di destra che c'è in Italia del panorama politico sia Di Pietro. Va bene, Alessandro, come dire? È un paradosso, ma anche alcuni interventi precedenti mi hanno preceduto, secondo me, esprimevano questo disagio di rappresentatività, diciamo. Va bene, ringrazio tantissimo per grazie lo spazio. Grazie. Arrivo. Dove andiamo? Fabrizio da Venezia, buonasera. Buonasera. Fabrizio, dica. Eccomi, sì, salve. Senta, riallacciandomi anche in questo discorso degli altri che è uscito anche adesso, volevo riprendere Boffo. Sì, Fabrizio, però lei tiene alto il volume della macchina, non sentiamo niente, dica. Così mi sente? Sì, deve spegnere la radio. Perfetto. Allora, Boffo Farina, lei rispondendo a un precedente ascoltatore ha detto chiedetelo a Feltri perché il Farina può parlare e il Boffo secondo Feltri non può parlare, io ce lo vorrei chiedere a lei. Scusi Fabrizio, lei può anche chiedermelo, non capisco cosa c'entra il paragone con Farina. Io ho più volte preso le difese di Boffo nella vicenda Feltri, più di questo che cosa vuole che le dica? Che Feltri è un porco? Non so cosa pretende lei. Ho detto che tutta l'operazione Feltri-Boffo è sbagliata sin dall'inizio, questo ho detto, avevo delle perplessità da subito, sono stati commessi degli errori, quel documento è stato ritenuto valido, invece si è dimostrato poi falso, più di questo non so cosa dirle Fabrizio. Ma non le dico sulla verità. Poi Feltri non è che ha detto che Boffo non può parlare, ha criticato quelle che secondo lui erano delle posizioni contro Berlusconi espresse dal direttore in alcuni editoriali su Avvenire, punto, non è che ha detto non può parlare, deve stare zitto. Beh, fino a un certo punto gliene ha dette tutti colori. Sì, ho capito, ma ha criticato alcune cose, non è che ha detto che sia si deve... Sia il Boffo sia il Farina, vabbè, sono stati oggetti di indagini, di condanne. Scusi, ma cosa c'entra Farina con Boffo? Non capisco cosa c'entra Farina con Boffo. Cioè, Feltri ha detto, sbagliando, eccetera, eccetera, che Boffo non si poteva permettere certi giudizi su Berlusconi o comunque avvenire certi giudizi, secondo lui, ingenerosi su Berlusconi perché 1, 2, 3, 4, 5, perché aveva una condanna, eccetera, eccetera. Tutto falso, eccetera. Poi Feltri si è scusato con Boffo mesi dopo. Cosa c'entra Farina? Farina c'entra perché... No, non c'entra, se lei vuole mettere in mezzo... scrivere sul Libero i suoi fondi in qualità di opinionista. Ma questa sarà la responsabilità... È un fatto questo che se io oggi compro Libero, oggi o domani posso trovarmi... Ma lei trova Farina che scrive adesso sul giornale, prima sul Libero, e siccome Farina, da quello che immagino, le fa schifo, lei decide a un certo punto di non comprare più Libero il giornale. Qual è? Sarà responsabilità di Feltri se fa scrivere uno condannato o se fa scrivere un delinquente, non sto parlando di Farina naturalmente. Sarà responsabilità di Feltri o no? A me interessava una sua opinione, però non la opinione di Feltri, la sua come giornalista. Lei è un giornalista, allora volevo sapere. Io penso che Renato Farina abbia tutto il diritto di scrivere dove vuole. Non è che se uno è stato condannato non può scrivere sui giornali. Vabbè, quindi questa lei è la sua opinione. Mi interessava per questo. Grazie. Cioè, è molto semplice. Poi ognuno si può informare su quello che ha fatto Farina, sulle sue condanne, sulla difesa nel processo, sul patteggiamento, sulla posizione dei valori dei giornalisti, ognuno si può informare. Feltri fa scrivere Farina. Lei ci trova qualcosa di scandaloso? Io, nel senso che non vedo dov'è il punto. Se ne assume la responsabilità, la vicenda di Farina è abbastanza... tutti la possono conoscere in maniera abbastanza semplice, basta andare su internet e fare Renato Farina. Giovanni da Roma, buonasera, anzi c'è prima Walter dalla provincia di Lucca. Pronto? Sì, Walter, dica. Ah, buonasera, intanto un salutissimo perché la seguo sempre, simpaticissimo. Guardi, io lasciamo così perché sono rimasto incuriosito dall'intervento iniziale, no, di Gattuso, di quello che dell'intervista che ha mandato. E in un periodo storico un po' così, fatto di contraddizioni, dove i giocatori di calcio commentano azioni finanziarie, i fondi europei, che magari è anche giusto che dicano la loro, si esprimano, e dove personaggi come Beltroni si mettono a commentare partite di pallacanestro, D'Alema mi ricordo commentava la vela, e va bene, ci sta tutto. Però ecco, allora io mi sono detto, io siccome lavoro nel sociale, nel terzo settore, io ho detto colgo l'occasione, colgo la palla al balzo, visto che parlava Gattuso, e faccio un appello a Gattuso, perché visto che i politici si interessano di vela, di pallacanestro e tutto, io non so più a chi rivolgermi, ad esempio semplicemente anche per richiedere un finanziamento o presentare un progetto, no? Ad esempio, beh, si rivolga a Gattuso, no? Appunto, dico io, magari mi sente, magari lei può intercedere, no, con questi personaggi, dico io, chiamo, a parte che non mi è mai riuscito a prendere la linea e ho detto io, chiamo stasera. Beh, guardi, è più facile rivolgersi in questi casi ai calciatori che ai politici per ottenere un impegno nel sociale, un finanziamento, qualcosa in beneficenza. Perché un mese dello stipendio di Gattuso, un mese, basterebbe per risolvere magari delle situazioni, magari cooperative e sociali del terzo settore che durano fatica a navigare, no? Poi qui siamo a Lucca, c'è stata anche l'alluvione, siamo anche un po' tutti sott'acqua, così, no? Quindi dico io, anche in un momento come questo diventa difficile, no? Anche per chi magari cerca di ottenere anche di portare avanti dei progetti per il sociale, diventa veramente difficile capire a chi è opportuno rivolgersi. Va bene, Walter, grazie. Marco da Milano, buonasera. Salve, salve Cruciani, salve. Era parecchio tempo che volevo parlare con lei e quindi adesso questa sera finalmente ci sono riuscito. Volevo dire due cose. Una su Noemi Letizia. È una ragazza molto carina, amica del Premier, la cui famiglia è amica del Premier. Non ci vedo niente di male che si faccia televisione, incida un disco, si proponga, ecco, non ci vedo proprio nulla di male. Quindi secondo me è ora di finirla di attaccare chiunque sia amico del Premier soltanto perché è amico del Premier. Non ha, guardi Marco, nessuno ha messo in discussione che lei possa cantare o che possa fare gli spettacoli. No, noi abbiamo mandato quella canzone, ci sono stati prima di me, alcune persone sono lamentate, hanno sotto una velata ironia criticare questa ragazza che si propone. Io non capisco perché criticarla, voglio dire, ci stanno tante ragazze in TV, una più una meno non cambia nulla. Va bene Marco, non mi sembra giudicherà questa ragazza, chiaramente, no? D'accordo, io facevo un po' di ironia sul fatto che chiedesse protezione o comunque che dicesse di aver paura dopo quello che è successo a Berlusconi. Poi? Per quanto riguarda Gattuso, invece, che stimo tantissimo come uomo, chiaramente l'imbeccata che ha dato lei prima, che la sentivo in macchina, anch'io condivido, in quanto non credo sia farina del sacco di Gattuso l'intervista sul Corriere, nel senso che l'ho sentito parlare in due interviste, una all'Era Glaciale e una alla trasmissione sulla 7, sempre di Daria Bignardi, e in tutte e due, per carità, è una persona che stimo, una persona onesta, una persona corretta, una persona che sicuramente ha faticato per arrivare dov'è. Però da lì a sentirlo parlare di fondi UE che devono essere dati, che non sono spesi, non so quanto sia farina del sacco di Gattuso, insomma. Quindi, ma non lo so, guardi Marco, anch'io ho dei dubbi, però magari è solo... Io ho dei dubbi su questo. È solo il nostro snobismo. La ringrazio. Giovanni da Roma. Buonasera Giovanni. Buonasera a lei. Dica. Aspetta, io volevo riportare brevemente la riflessione sul tema politico, no, di queste regionali, partendo dal tema della personalizzazione della politica. Questa è un'accusa che spesso si fa a Berlusconi, forse a ragion veduta, no? Di aver personalizzato in maniera eccessiva la politica. Però io e da 2-3 settimane sto sentendo questo dibattito sulle varie compagini regionali, alleanze, continuo a sentir parlare di persone. Ma lei ha sentito qualche programma? Per esempio, cosa vorrebbe fare nella regione Lazio il centro-sinistra, piuttosto che in Puglia il centro-destra? A me queste notizie non sono arrivate, sono io distratto o ci siamo scordati che forse bisogna ragionare sui programmi e lì fare le alleanze? Beh sì, lei ha ragione Giovanni, diciamo che siamo in una fase ancora della presentazione della candidatura, poi ci sono i programmi, io resto convinto che poi i programmi per quello che riguarda le elezioni regionali, spesso possiamo fare lo stesso ragionamento anche per le elezioni politiche, ma figuriamoci sulle elezioni regionali, insomma siamo nel campo della fumosità assoluta, poi alla fine c'è sempre un pragmatismo nel governo di una regione che prescinde dai programmi, si possono fare grandi annunci sulla sanità eccetera, sul ridimensionamento delle spese e su altre cose ancora, poi tutto si annacqua quando si deve gestire una regione. Giuliano, provincia di Rieti, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Allora, io volevo fare un piccolo intervento sulla proposta del ministro Brunetta sull'articolo 1 della Costituzione. Allora, io mi ricordo che leggevo i primi 12 articoli della Costituzione sul retro dei miei quaderni di scuola elementare. E allora? Sì, oramai quasi 40 anni fa. E non capivo cosa volessero dire quelle 12 frasi. Poi l'ho capito col tempo. E oggi vorrei dire, mi aspetto che ancora venga dato completo, diciamo, una maggior percentuale, ecco, di compimento ai principi della Costituzione sulla quale si sono riconosciuti i costituenti e oggi chiamiamoci, diciamo così, noi italiani a riconoscerci la Costituzione, ancor prima che qualcuno ce la cambi, prima di vederla soddisfatta. Quell'articolo 3 che il precedente intervento ricordava. Sì, ma poi ognuno ha la sua idea, ognuno ha la sua idea su come quegli articoli debbano essere applicati, Beh, certo, però atteniamoci un po' alla lettera o almeno guardiamoci in faccia fra di noi e vediamo di metterci d'accordo su come leggerli. Quell'articolo 3 che dice la Repubblica promuove tutti gli interventi per eliminare le disparità, eccetera, eccetera, è un impegno perché si offre a governare la Repubblica. E allora, mi sembra che rispetto a quando ero bambino io, per esempio, stiamo andando indietro per quanto riguarda la scuola. Per quanto riguarda l'offerta scolastica, io sono riuscito a studiare fino all'università con l'aiuto dello Stato. Le attuali conoscenze che ho dei più giovani che oggi studiano lo fanno con qualche difficoltà. Vabbè, Giuliano, insomma, no. se l'interpretazione di quell'articolo secondo lei è che debba essere gratis o comunque quasi gratis anche l'università, vede che già insomma siamo nel campo delle interpretazioni. La ringrazio. 19 55 40 800 24 00 24 Alessandro dalla provincia di Savona, buonasera. Sì, buonasera. Dottor Cruciani, tutto gli ascoltatori. Io la chiamo semplicemente perché sono così, sono un po' amareggiato, sono un po' sconsolato, diciamo. Io vedo il governo che si sta dematerializzando cioè la politica in generale, come tutti i documenti online, si sta dematerializzando, cioè non c'è più la connessione tra il pubblico, il vero pubblico, la gente, cioè non il pubblico, le persone, e ciò che avviene all'interno del governo. Sembra retorica, ma io voto, ma mi sembra che il mio voto vada disperso in un mare di... cioè non vedo ritorni, non vedo... Non si capisce come questo Stato possa aiutare le persone, le faccio un esempio. Ecco, mi faccio un esempio. Ecco, un esempio. Come fa un ricercatore del CERN, un ricercatore, che prende 1.200 euro, 1.500 euro a vivere e ovviamente ci campa come tutti, però... un ricercatore che ha studiato per anni, che magari studia sulla materia fondamentale dell'universo e robe del genere, e poi un calciatore che per sei mesi piglia 3 milioni di euro. Alessandro, basta con questa storia della disparità di stipendi tra i calciatori e ho capito, ma il governo e i ricercatori, francamente. Cioè, per esempio, che questo basta firmare due o tre accordi. Sì, Alessandro, non è così, perché se da noi lo Stato ha un peso enorme sul bilancio, se non riusciamo a liberarci dal debito pubblico che abbiamo, è evidente che i ricercatori saranno pagati così come sono pagati oggi, cioè in maniera poco degna, a parte che bisognerebbe razionalizzare anche la spesa e indirizzarla dove la ricerca è utile, ma insomma questi sono altri discorsi. Il problema è sempre lo stesso: dove c'è il mostro dello Stato come in Italia, dove c'è il debito pubblico che c'è in Italia, non si riesce a pagare i ricercatori in maniera degna. Abbiamo la pubblicità, poi i telegiornali 800 24 00 24. La Zanzara. Siamo qui alle 20 in punto, andiamo a sentire il TG5. Per il crollo della casa dello studente all'Aquila, costato la vita a 8 persone, i periti accusano nel progetto mancava un pilastro. Alla Casa Bianca è in corso il vertice tra Obama e i capi dell'intelligence sulle falle nella strategia antiterrorismo. Riaprono le ambasciate nello Yemen. Ricoverata incinta di due gemelle, marocchina va in arresto cardiaco. Inutile la corsa in sala operatoria, morte anche le bambine. Il marito, voglio la verità. Nel posto a lei riservato perché disabile, trova parcheggiato ogni mattina il furgone dei vigili urbani. Ora basta, dice, li denuncio. Il Tribunale di Parigi annulla la radiazione di Flavio Briatore dalla Formula 1. La federazione l'aveva punito per il falso incidente di Piquet a Singapore. Hit parade delle cose che noi italiani non sopportiamo. Code, maleducazione, ma anche risponditori automatici. Il sondaggio del clandestino. Oltre 115 milioni di euro a chi centrerà il 6 al Superenalotto. Sarà una Befana milionaria? Tra poco i numeri vincenti. Va bene, anche il TG1. Vertice sul terrorismo, da Obama i vertici di CIA e intelligence, tempi stretti a Fiumicino e Malpensa. L'attentato al tribunale di Reggio, Maroni al TG1 e la reazione delle cosche all'azione dello Stato. Non ci faremo intimidire. Neve record in Cina, disagi ma anche occasione di divertimento. Sulle strade italiane pericolo, pioggia ghiacciata. È la notte della Befana dai mercatini di Roma e Milano, le ultime novità che gli italiani troveranno nella calza. Spoppola al cinema il cane a Cico, ma per i tanti che comprano cuccioli della stessa razza, attenzione al commercio illegale. Colpo di scena nel caso Briatore, il Tribunale di Parigi annulla la radiazione dalla Formula 1, al TG1 dice restituita la mia dignità. Antonio ci chiama da Messina, buonasera. Buonasera. Dica. Dei piccoli flash veloci. Io ho telefonato per criticarla. Seguivo fino a un paio d'anni fa zapping del dottor Forbice. Non l'ho seguito più perché non mi sembrava gentile e garbato con gli intervenuti, o per meglio dire, con gli intervenuti celebri sì, con il popolino mi sembrava sprezzante, scortese. E così sono passato alla Zanzara per seguire lei, che all'inizio mi sembrava più equilibrato. Adesso trovo gli stessi difetti del dottor Forbice. Lei è sprezzante col popolo e si abbassa un pochino con quelli che sono più potenti. Chi sarebbero quelli più potenti? Soprattutto a destra. Ma chi sarebbero quelli più potenti? Non capisco. Ad esempio Feltri. Lei dice che è un bravo giornalista. Ma io ho appena detto che su Boffo ha commesso degli errori pazzeschi, ho detto che... Quello l'ho sentito. E allora che vuole da me, Antonio? No, è perché mi risponde così, mi perdoni. No, ma allora che dice, che sta dicendo? Lei dà ragione alla mia teoria, che dico che lei è sgarbata e lei mi risponde, ma che vuole da me? No, che vuole da me era per dire semplicemente che si è appena contraddetto, perché ho criticato Feltri e dunque non dico a prioristicamente che è un bravo giornalista. No, aprioristicamente non lo dice, lei dice che è un bravo giornalista al 90%. Vabbè, d'accordo, allora come dice lei, Antonio? Facciamo come dice lei che è meglio. No, non dobbiamo fare come dico io sto esponendo il mio punto di vista, poi lei... No, lei non espone il suo punto di vista, interpreta quello che dico io, che è un po' diverso, insomma. Certo, ma lei è lì apposta per essere pure interpretato da noi. Infatti, lei lo fa, però se dice quelle che secondo me sono delle stupidaggini, io intervengo per correggerla. Perfetto, lei può ribadire... E tutta questa libertà dove la trova lei? In qualche altra trasmissione la trova? Sì, la trovo. La trovo, bene. Dico, se lei mi fa finire di parlare, allora possiamo dire che anche qui c'è libertà. Sì, però non continuiamo con questa solita litania se mi fa finire di parlare, perché qui tutti possono parlare senza problemi, per cui è inutile ribadire questa... Giusto, ma se io ho un minuto di tempo e lei già me ne ha rubato... Lei non ha un minuto, lei lo sa benissimo che non ha solo un minuto. Antonio, non dica stupidaggini, avanti. Allora io dico stupidaggini, me l'ha detto la signora della segreteria che ho un minuto di tempo. Quindi ma nessuno può avere detto una cosa di questo tipo. Comunque Antonio, dica. Va bene, allora me lo se qualcuno l'ha detto hanno sbagliato. L'ha detto hanno sbagliato a dirlo. Posso continuare? Sì Antonio, continui. Allora volevo dirle, tutti sanno in Italia, anche lei lo sa, che è una persona molto intelligente, non sono d'accordo col suo modo di fare, però lei è molto intelligente. Tutti sanno che Feltri è la longa manus di Berlusconi, perché da quando è passato al giornale continua a fare bordate, attacchi a destra e a manca. Voglio dire, perché non li faceva quando era libero? Perché non li faceva quando era al giornale quel poco che c'è stato? Dico, Feltri è un giornalista, insomma, come ce ne sono tanti, pagato bene per dire determinate cose. E qui ho chiuso. La critica che vorrei fare a lei è naturalmente che, questa qua è la sua, è la verità assoluta, che chiunque non vede le cose in questo modo è un prezzolato. No, assolutamente no. Meno assolutamente male. No. Meno male. Ci sono giornalisti di destra che io rispetto tantissimo. No, ho capito, chiunque non la pensa, non condivide la sua idea su Feltri, naturalmente è prezzolato, queste sono evidenze assolute. No, è prezzolato lui, non lei. Sì, lei non ho capito, vabbè Antonio, non ha capito quello che volevo dire. Vabbè, mi perdoni se non l'ho capita. Volevo dire, una critica diretta a lei. Lei ha scritto un paio d'anni fa, non ricordo adesso con precisione, un libro sull'utilità del ponte. Sì. Io avrà capito, sono di Messina, quindi la cosa mi preme. Io credo, lei ci ha mai vissuto a Messina? No. Ha mai vissuto qui, nelle case vicine a dove dovrebbe sorgere un ponte, anche un po' più lontano? Ha mai vissuto con l'emergenza idrica, con l'emergenza... Diciamo Antonio che se a decidere il ponte dovessero essere solamente gli abitanti di Messina e di Reggio Calabria, non si prenderebbe mai nessuna decisione in tutta Italia, insomma, per qualsiasi cosa. Perfetto, però bisogna anche guardare le esigenze del territorio. Mi dica quello che pensa sul ponte di Messina, così... Il pensiero è molto semplice perché è già stato detto da tantissime persone. Prima datemi un po' di pane e mortadella, poi pensiamo al caviale. Va bene, perfetto. Questo è quello che volevo dire. La ringrazio, la prego, non sia sprezzante con il popolo. Io non sono sprezzante con... Lo sia di più con i politici. Io non sono sprezzante con nessuno, Antonio. 20 a 7 minuti, andiamo a Firenze. Lorenzo, buonasera. Buonasera. Io volevo... parlare un attimino di Di Pietro. Sì, un attimo solo però, Lorenzo. I titoli della 7. L'Italia ha bisogno di maggiore coesione nazionale. Appello di Napolitano e del presidente della Camera Fini da Napoli, ricordando Enrico De Nicola, il primo capo dello Stato. Napolitano chiede a tutte le istituzioni di rispettare il proprio ruolo. Per le regionali nel Lazio, i radicali lanciano la candidatura della Bonino. Il PD affida Zingaretti un mandato esplorativo per trovare un candidato forte e un'alleanza più ampia. In Puglia l'UDC scioglie le riserve e annuncia che appoggerà Francesco Boccia del PD. Dopo i casi di Detroit e Newark, vertice straordinario con Obama sulla sicurezza, non escluso un cambio ai vertici di CIA e FBI. In Italia presto operativi body scanner negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa, dubbi e polemiche sul rispetto della privacy. Colpo di scena in Formula 1, il Tribunale di Parigi dà ragione a Flavio Briatore. I giudici annullano la squalifica vitta per l'ex manager della Renault decisa dalla Federazione Mondiale dopo l'inchiesta sul finto incidente in pista a Singapore. Va bene, come avete sentito, una notizia del giorno è certamente la squalifica annullata a Briatore. Pubblicità, poi torniamo con l'ascoltatore da Firenze. La Zanzara. Lorenzo, allora, buonasera. Buonasera. E di nuovo, volevo parlare un attimino del problema Di Pietro. Non ha ancora, anzi, sta enfatizzando nuovamente la situazione contro Berlusconi. Cioè non ha ritirato niente di quel che ha detto fino all'inizio, ha fatto parlare altri suoi dicendo cose diverse, ma lui non ha ritirato niente di quel che ha detto contro Berlusconi, mi sembra, no? Ma no, che insomma, anche De Magistris ci ha messo un carico stanno da 90. Stanno tirando sull'acceleratore. Ecco, allora dicevo, in questa maniera non legalizzano le cose anche verso tutti i politici e verso di loro anche. Che non significa è che legalizzano? Non ho capito, mi spieghi Lorenzo, che significa legalizzano le cose? Ma il sistema che hanno che è stato adoperato contro Berlusconi di tirargli in faccia il Duomo di Mille, quell'oggetto in pietra, comunque non lo legalizzano anche verso di loro, perché a un certo punto dice se va bene così va bene anche contro di loro. Lei dice attirano un odio verso situazione, cioè a un certo punto se l'aspettino anche loro qualche cosa, no? Speriamo di no, naturalmente speriamo di no, però ha capito chi lo dice, come dicevano loro, che Berlusconi se l'è chiesta, se lo stanno chiedendo anche loro o no. Non lo so, non mi pare che ci siano avvisaglie, per carità, qualche deficiente che scrive delle cose su Facebook violente nei confronti della sinistra c'è sempre, non mi pare però che ci sia un clima di odio nei confronti di Pietro che possa arrivare a quei livelli. La ringrazio. Dove andiamo? Giacinto da Bari, buonasera. Intanto la Polverini a Blob dal TG3, sentite. Che fa male a tutto il PDL questo attacco. Giacinto, allora dica. Buonasera Cruciani. Dica. Io chiamo da Bari. Lo so. Volevo semplicemente invitarla a osservare con molta attenzione quello che sta succedendo in Puglia, perché secondo me è paradigmatico di tutta la situazione italiana. Cioè? Nel senso che la candidatura Vendola, che è stata così vivacemente contrastata ovviamente dal centrodestra per un fatto ovvio, ma anche all'interno del centrosinistra, è né più né meno che l'affermazione delle segreterie dei partiti sulla volontà popolare. Io ho sentito per esempio Casini che diceva in televisione che il giorno della riunione dei delegati per la designazione del candidato del PD c'erano state manifestazioni violente, quasi una rivolta di piazza. Sì. Io per curiosità, perché non sono né iscritto a un partito né tantomeno simpatizzante di sinistra, ero andato a vedere un pochettino. Non c'è stato assolutamente niente di tutto questo. Se poi nelle segrete stanze ci sono stati momenti di tensione, io questo non lo so, perché ero fuori dalla... Ma insomma Casini cerca di portare acqua al suo molino, non vuole la candidatura Vendola. Adesso... In televisione si dicono delle cose così macroscopicamente inesatte. Si forma un'opinione pubblica... C'è stato qualche schiamazzo durante alcune riunioni del Partito Democratico tra vendoliani e sostenitori del sindaco di Bari Emiliano. Il punto fondamentale è che c'è un grande caos e una sorta di suicidio all'interno del centrosinistra in Puglia, con un governatore in carica praticamente defenestrato dal partito principale della Puglia. Non so come se ne uscirà, anche perché il centrodestra non è che abbia le idee chiare in Puglia. Pochi istanti fa leggo un'agenzia con Fitto, che è stato governatore sconfitto da Vendola, che dice anche noi ci dobbiamo decidere sul candidato, si fa il nome della Poli Bortoni addirittura, o quello dell'ex magistrato D'Ambruoso. È con noi il segretario della destra Francesco Storace, buonasera. Buonasera agli ascoltatori. Come sta Storace, come sta? Bene, sto stanco. Reduce da Milano, dove mi dicono ha incontrato Berlusconi, o sbaglio? Sì, sì. Come l'ha trovato? Oggi è il primo giorno senza fasciatura, senza bende al volto. Quasi uno scoop ci sta dando. Quasi uno scoop. Come l'ha trovato? Che cosa ha sulla faccia? No, io l'ho trovato liscio, per dirla in linguaggio, diciamo, cronachistico. Credo abbiano fatto un buon lavoro i medici. È già stato in Svizzera? No, in Svizzera nemmeno ci va. Ma è già stato in Svizzera a farsi il ritocchino di cui si parlava, no? Credo che abbia fatto tutto quanto con quel dottor Raffaele. Dunque l'ha trovato bene dal punto di vista estetico, diciamo, no? Sì, anche sul morale, insomma. Passate 3 ore divertenti, come da tempo non facevamo. Senta, ma questo accordo l'avete chiuso per i regionali già da tempo? Sì, ma lo annunciò in piazza proprio quel giorno in cui poi ci fu l'aggressione. No? Già, già, è vero, mi ricordo, sì, è stato... Diciamo, senta, adesso sono i dettagli, diciamo, tipici di queste questioni. Quando se l'è tolta questa benda? Oggi? Le bende? Oggi. Quando... Infatti, aspettavo di trovarlo fasciato, invece non lo era. Ma davanti a lei se l'è tolto, no? No, non ha voluto farmi la befana a me. Senta, dopo il traffico le chiederò a lei una domanda semplice, così, di quelle banali. Lei con chi sta? Con Fini o con Feltri? Perché ormai tutto il dibattito nel centro-est, almeno a livello poi dei giornali, credo che gli elettori se ne freghino totalmente di queste cose. Comunque, insomma, è intorno a questi due nemici, Feltri e Fini. Traffico prima. La Zanzara. Eccoci qui con Francesco Storace, segretario della destra, reduce da un incontro con Berlusconi, che ha trovato pulito sul viso, libero dalle bende. Con Fini o con Feltri, Storace? Vabbè, insomma, è una domanda. Ormai sbadiglio quando leggo le cronache di questo perché? Sport. Perché? Perché preferirei che entrambi si concentrassero più sulla sinistra. Cioè anche Feltri allora si dovrebbe più concentrare sulla sinistra. Sì, perché oggettivamente è una polemica che sta stancando. Per carità, io condivido larga parte delle cose che scrive Feltri su Fini, perché giudico Fini molto incoerente, però insomma non è obbligatorio dirglielo tutti i giorni. Ma anche quest'ultima cosa sugli immobili secondo me è una cosa pretestuosa? Ma di pretestuosi non trovo mai nulla, c'è stata una risposta, insomma... Ce l'abbiamo di argomenti da tirar fuori, credo che insomma dover per forza stare a litigare mi sembra una vocazione tafazzista. Ma cosa c'è sotto? Secondo me alcuni dicono Feltri in realtà agisce per conto di Berlusconi, perché insomma bisogna... Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Guarda, io però ho un'idea molto meno dietrologica su questo, non è che amo molto le dietrologie. Penso semplicemente che Feltri agisce così di pancia per stare lui al centro poi dell'attenzione, che naturalmente è legittimo. Penso che ci sia un marketing. Diciamo che interpreta larga parte della pubblica opinione, questo non c'è dubbio, perché io non passo giorno in cui non ci sia qualcuno che non mi chieda Fini da che parte sta. Io dico sempre che glielo a lui, insomma. Però è curioso questo. Cioè sulla bioetica, sugli immigrati, su eccetera. Ma anche nel rapporto stesso con Berlusconi, insomma, è stato 15 anni appresso a lui, e ottiene come premio la presidenza della Camera, insomma. 5 minuti fermo potrebbe stare pure lui. Tu che lei invita tutti a stare più fermi, sia Feltri che Fini, di concentrarsi sulla sinistra. Senta, però qui c'è un'ultima polemica sulla Polverini, no? Addirittura Fini e Feltri se l'è presa con la Polverini. Come Candi dice, io non la voterei mai nel Lazio perché mi sembra un Epifani in gonnella. L'Epifani in gonnella è una cosa straordinaria dal punto di vista mediatico, perché effettivamente molte delle posizioni prese dalla Polverini, io me le sono andata a rivedere, non è che sono distanti da quelle del leader della CGIL sul lavoro, sulle pensioni, sulla flessibilità. Anche lei è un'invenzione di Ballarò, come la Brambilla. Insomma, è nata a Ballarò e piace molto a Veltroni, insomma, a quell'ambiente lì. C'è una differenza grande tra me e la Polverini ed è sulla presenza a Ballarò. Per il resto la penso anch'io su molti argomenti come lei. Amministrazione di destra sociale, forse sì. Per questo tradisco questa candidatura. E poi se Feltri a Milano voterà un altro, va bene, io a Roma non lo E quei manifesti con il vestito rosso, poteva scegliere un altro oppure chi se ne frega? Ma chi se ne frega veramente, guardi, veramente cioè, siamo a parlare di niente. In campagna elettorale i manifesti servono ad essere notati, è stato notato, quindi vuol dire che ha avuto effetto. Ma Epifani in gonnella è una bella definizione oppure... Insomma, poteva fare paragoni migliori. Senta, una cosa, io non capisco però questo, Storace. Lei effettivamente nei confronti di Berlusconi non è mai stato particolarmente cattivo, anche quando non fu raggiunto un accordo, no, alle politiche, eccetera. Ha sempre usato delle... Dunque non mi scandalizza che adesso, diciamo, la destra trovi un accordo con le regionali. Ma qui c'è, insomma, la politica è anche bizzarra, perché la Santanchè stava con lei. Poi vi siete separati, diciamo, lei non ha creduto più nel progetto della destra. Adesso vi ritrovate di nuovo insieme, addirittura si parla la Santanchè, che invece nei confronti di Berlusconi ne ha dette di tutti i colori, io l'ho scritto, lo abbiamo fatto sentire, eccetera eccetera, addirittura si parla di una possibilità di Santanchè come sottosegretario. Non stiamo esagerando, io ho scritto, forse esagerando, lei se l'è preso un po' con me, che dopo quello che ha detto su Berlusconi la Santanchè, per me, fossi Berlusconi, non farebbe nemmeno l'usciere a Palazzo Grazioli. Questa forse è un'esagerazione, però Lei che dice? Non è strana la politica? Ne ho parlato oggi, che è capitato di chiacchierare anche di questa cosa. Io ho detto, guarda, il tuo governo ci fai quello che ti pare, mi sembra evidente. Se Daniela Santanchè ci ha ripensato rispetto a quello che diceva su di te, è un problema suo. Io registro un dato politicamente rilevante, che non c'è più nessuno che ha il monopolio delle vite e delle fortune politiche di quelli che stavano in Alleanza Nazionale. Perché anche Santanchè, insomma, viene l'Alleanza Nazionale, sì. E questo varrà anche per noi in termini di alleanze. Diciamo, la differenza c'è che la Santanchè ha attaccato quello che chiamava il supermercato PDL e poi c'entra dentro. Io al massimo mi ci alleo, non sono confluito nel PDL. Senta, ma ha letto quella indiscrezione l'altro giorno sui giornali in cui insomma, c'erano dei virgolettati di Berlusconi, poi non so quanto veri, si dice devo ringraziare o comunque devo qualcosa alla Santanchè, le devo fare una sorta di, no, la devo premiare per il fatto che mi è stata vicina nel divorzio, c'è qualcosa di vero in questo secondo lei? Ma lei perché mi vuol far litigare col mondo? Siamo qui per questo. Siamo qui per questo. Cioè, è vero che Berlusconi deve qualcosa alla Santanchè oppure no? Cioè, le deve dare questo premio di farlo diventare sottosegretario? Poi perché uno vuole fare il sottosegretario? Poi non lo capisco. Un avvocato mi proibisce di rispondere. Vabbè, chiudiamo con la domanda più banale di questi ultimi giorni: la via a Bettino Craxi. Lei la intitolerebbe una via a Bettino Craxi oppure anche qui sono stupidaggini? Guardi, io sto lavorando a un elenco di strade di Roma intitolate ad imperatori, perché hanno fatto la storia, ma hanno anche, diciamo, collezionato un discreto numero, diciamo, di cosucce non propriamente positive, ecco. Quindi a me non fila, diciamo, la questione che solleva Di Pietro, il latitante, no? Io credo che debba passare un po' di tempo, perché insomma non è una cosa normale intitolare una strada a un esponente politico, e ci devono essere anche dei meriti. Ad esempio, io mi aspetterei che sono dal sindaco della mia città con l'intitolazione della strada Giorgio Almirante, che è stato consigliere comunale di Roma ed è stato un protagonista di 40 anni di storia repubblicana. Ma ci sono delle vie Almirante in giro per l'Italia? Infatti ci sono, ma io sogno di vederla anche a Roma. Senta, meglio Rutelli che Casini, come diceva addirittura oggi Feltri. Feltri esagera oggi, meglio Rutelli di Casini, cose di fantapolitica addirittura. Sì, guardi, Rutelli ormai è il 15° partito che ha fatto, insomma. Il 16° per dare un giudizio compiuto. Grazie, buona serata. Buonasera. 20 24 800 24 00 24, dopo Storace andiamo agli ascoltatori naturalmente con Raffaele da Brindisi. Stasera molti pugliesi ci chiamano e siamo particolarmente contenti perché insomma la situazione politica in Puglia è ancora piuttosto confusetta. Raffaele, dica. Raffaele? Non c'è. Ernesto da Roma, allora. Pronto? Ernesto, dica. Buonasera Crociani, grazie per avermi chiamato. Ma niente, io devo intervenire sulla Polverini e su Fini. Io sono completamente d'accordo con Feltri. La Polverini, che non conosco personalmente, ho visto in televisione come tanti altri italiani, mi dà l'impressione, sì, di una brava persona, preparata, ma non mi sembra che abbia la statura per fare il governatore della mia regione. Ha più l'immagine di una buona sindacalista, se vuole, protesa verso la massaia, non mi pare neanche un Epifani in gonnella. Eppure, ironia della sorte, mi toccherà votarla, perché altrimenti poi faccio gli interessi del centro-sinistra. Un'altra cosa riguarda Fini, io sono d'accordo con Feltri, per me Fini oramai è un pesce lesso, anzi, a dirla meglio, non è né cane né pesce, perché ha perso le sue connotazioni, la sua identità, tra Fiuggi, la Biura e le sue dichiarazioni da cameragno, cioè a metà strada tra il camerata e il compagno, diciamo. Mi sembra oramai una persona che, se si tornasse a votare, segnando il nome sulla scheda, scoprirebbe di rappresentare oramai solo se stesso. Questa è un po' la mia opinione sotto per questi due argomenti. Sono completamente d'accordo con lei. Dice che il consenso intorno a Fini è piuttosto esiguo. Va bene. Catania, Luigi, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Io non la critico, non muovo nessun rimprovero, anche perché sono un ascoltatore piuttosto recente, quindi ancora non ho modo per fare apprezzamenti più o meno negativi su di lei. Quindi passo direttamente al problema. Che è meglio, sì. Sì, è meglio. Niente, mi sorgeva questo pensiero. Il ministro Fazio ha ordinato ben 40 milioni di dosi di vaccino per l'H1N1, a fronte dei quali soltanto 35.000 sono stati a tutt'oggi utilizzati. Mi chiedevo, dico, se un problema di responsabilità, quantomeno politica, del ministro si ponga. Non credo ancora oggi a questa data una responsabilità amministrativa in senso stretto, e quindi anche eventualmente patrimoniale e risarcitoria, ma ovviamente in Italia queste cose non si pretendono, però dico, se quantomeno, mi chiedo, un ministro a fronte di un evidente flop non debba avere il coraggio di apparire in TV, tanto dire scusate, ho sbagliato, le previsioni mie, del ministero, degli uffici competenti che curano non so come indagini e quant'altro, abbiamo fatto male i conti, io ne sono il responsabile, me ne vado a casa, scusate, è stato un piacere. Dico, è lecito in Italia, e pongo un problema più grande forse, partendo dal caso particolare, aspettarsi da un politico un'azione, una presa di responsabilità di questa? Sono 200 milioni di euro buttati al vento a vantaggio delle case farmaceutiche, non so, più o meno coscientemente ne avranno un tornaconto in termini elettorali, non so, penso male, la trasmissione mi invoglia a pensare male. No Luigi, è un argomento molto interessante, le faccio presente però, leggendole un'agenzia ANSA di oggi da Parigi, che in realtà non è un problema solo italiano, quello dell'errore di valutazione, al momento sembra essere questo, sulle dosi di vaccino ordinate. È scoppiato un caso in Francia per il flop della campagna di vaccinazione contro il virus dell'influenza A, giudicata dispendiosa ed eccessiva dagli osservatori di sinistra e non solo, tanto che ora il paese si ritrova a dover gestire enormi stock di vaccino, ma anche di mascherine e farmaci antinfluenzali. La polemica è esplosa dopo che il governo ha annunciato di aver annullato 50 milioni di ordini di dosi di vaccino e di aver avviato accordi per rivenderne alcuni milioni all'estero. Questo annuncio per molti è suonato come mea culpa immediata, e quindi è arrivata la reazione furiosa della sinistra, che non si è fatta scappare l'occasione, eccetera, eccetera. La campagna è stata definita ansiogena per quello che è successo nei mesi scorsi, e anche un fiasco per alcuni, un fallimento scandaloso per altri. Addirittura la Francia è stato uno dei paesi più prudenti nell'ordinare le dosi di vaccino. Dunque non è una questione solo italiana, Luigi. Non mi sembra che in Francia qualcuno chieda le dimissioni dei ministri, probabilmente c'è stato un allarmismo eccessivo, non so se poi come fa pensare lei, come lascia intendere lei, ci possa essere stato anche una, così, un occhio di riguardo per le case farmaceutiche. Francamente questo mi sembra impossibile da accertare, al momento mi sembra solo una dietrologia. Luigi, se vuole riprendiamo dopo la borsa, 800 24 00 24. La Zanzara. Siamo qui alle 20.33, 800 24 00 24, sentiamo il titolo del TG2, poi torniamo con l'ascoltatore da Catania. Appello di Napolitano e Fini alla commemorazione di Enrico De Nicola, primo presidente della Repubblica. Mai smarrire, dice il capo dello Stato, il senso del comune interesse nazionale. Psicosi terrorismo in America, allarme in un aeroporto californiano, bloccati i voli, vertice sicurezza con Obama. E da noi arrivano i body scanner, saranno installati a Fiumicino e a Malpensa. In Pakistan, scoperta una scuola per kamikaze, i talebani adestrano i ragazzi a compiere attentati suicidi per incoraggiarli al martirio, dipinte sui muri, immagini del paradiso. La casa dello studente all'Aquila, in cui morirono 8 giovani, crollò anche per la mancanza di un pilastro, la conferma dalla perizia dei consulenti della procura. Negli Stati Uniti va in onda un reality show con protagonisti ragazzi italo-americani, super abbronzati, palestrati e volgari. Non siamo così, protesta la comunità degli italiani. Allora Luigi, a me pare che tra l'altro, siccome altri paesi in Europa stanno cercando di rivendere le dosi di vaccino invendute, rimaste lì inutilizzate, la polemica in Italia si concentra soprattutto su che cosa? Sul fatto che al momento nessuna partita di vaccini contro l'influenza A verrà ceduta in saldo dall'Italia, almeno per adesso. No, io semplicemente dico, pensavo, ripeto, parlando con conoscenti, mi sono detto, se fossi stato ministro della salute probabilmente il paese avrebbe risparmiato 200 milioni di euro, magari qualcosina. Ma non lo so, adesso la vaccinazione è ancora in corso, non sappiamo quante dosi, diciamo, avanzano, quante dosi restano, sicuramente. Ne resteranno, per cui si potrà fare solo alla fine un bilancio di questo tipo. Ripeto, no, però, che è un problema che riguarda evidentemente tutti i paesi europei. Ora, pensare che dietro ci sia una sorta di, possibile anche, di spectro delle multinazionali che ha influenzato tutti i governi europei che hanno ordinato dosi di vaccino superiori, ora questo mi sembra francamente eccessivo. Non lo so, può darsi che in realtà l'influenza delle multinazionali da questo punto di vista sia piuttosto penetrante, dunque abbiano spinto a ordinare dosi di vaccino superiori alle reali necessità. Non lo so, insomma, mi sembra che per il momento in Italia c'è questa polemica qui che riguarda il fatto che il governo ancora non ha deciso di dare il via libera alla rivendita delle dosi di vaccino ad altri paesi. Con me stesso, in tempi di esplosione del problema, io stesso credevo e mi aspettavo una certa solerzia da parte del Ministero di chi di competenza che si procurassero i vaccini, cioè sentivo il bisogno di essere comunque rassicurato in questo senso, quindi dico pure che non è semplice, ovviamente comunque la si guardi, si sbaglia, è facile sbagliare, però sollevavo più il problema di una possibilità di pagare per gli errori che comunque chi ricopre certe cariche, certi incarichi, oneri ed onori, comunque si assumano, quantomeno, ripeto, a livello politico. Sì, ho capito. Luigi, tra l'altro, chi sta sostenendo in queste ore in Italia questa campagna contro le dosi eccessive di vaccino, eccetera, è un po' curiosamente l'ex ministro Gaspari. Oggi, per esempio, Gaspari, in una lettera scritta al quotidiano Il Riformista, scrive: mi accusate di atteggiamenti antiscientifici perché ho ripetutamente criticato l'allarmismo che ha portato tutti i paesi occidentali all'acquisto di ingenti dosi di vaccino contro la nuova influenza, rimasti poi ampiamente inutilizzati. Difendo il mio punto di vista e sono convinto che dietro le campagne allarmistiche vi siano regie internazionali tese ad assicurare profitti a chi vende e produce questi vaccini. Mi chiedo e ti chiedo perché i vaccini non sono stati utilizzati. Dunque, secondo Gaspari, c'è una regia internazionale tesa ad assicurare profitti a chi vende e produce questi vaccini. Poi naturalmente le prove di questa regia internazionale non si sa dove stanno. La ringrazio. Stefano da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, volevo prima di tutto farle i complimenti perché credo che abbia una pazienza che nessun'altra radio, nessuno con tutti gli ascoltatori riesce ad avere. E poi no, volevo dire un po' la mia sulla querela del mobile Billy o della cosa televisiva Billy, che sì, prima la rubrica del TG1 Billy, chiamata come anzi omaggiando, per una sorta di, non dico omaggiando, no, perché sennò sembra che si fa davvero pubblicità, sì, no, occulta, ricordando la libreria più venduta al mondo, diciamo, no? Sì, tra l'altro mi fa sorridere come Aldo Grasso fa un po' il lavoro che fanno tutti i critici, pizzica un po' queste, sia in ambito televisivo che in ambito cinematografico, ama un po' pizzicare e andare a cercare in giro tutti i vari collegamenti con la televisione e con il mondo che ci circonda, o col cinema. L'altra cosa che mi fa sorridere è che almeno, cioè, questa roba qui del Billy la facciano bene, quella della TG1, magari si facciano dare dei soldi da chi vende il Billy, così magari riescono a fare qualcosa di sensato, ma senza che venga fuori una querela, senza significato, solo perché viene chiamato nello stesso modo. Non questo, giusto? Ma guardi, io la penso come lei, francamente. Prendersela con il conduttore di una trasmissione pensando che chiamare una rubrica come gli scaffali di una libreria sia meno nobile rispetto alla trasmissione precedente, al nome e all'impostazione della trasmissione precedente, mi sembra una mi sembra una forzatura. E comunque non vedo nemmeno questa cosa della pubblicità occulta. Certamente la scelta è quella, chiamare una libreria esattamente una rubrica come la libreria venduta dall'IKEA. Il riferimento è quasi immediato. La ringrazio. Sandro Reggio Emilia, buonasera. Sì, buonasera. Mi chiamo Gretone Sandro, sono consigliere comunale Italia dei Valori a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Sì. Seguo da poco tempo la vostra interessante trasmissione. Noto comunque un certo malumore da parte della gente che parla in trasmissione, tipo chi fa riferimento prima al vaccino antinfluenzale, quando quasi tutti i medici ritengono che H1N1 sia una normale influenza. Ecco, un'altra cosa che voglio dire, sono completamente d'accordo con l'onorevole Storace nel non intestare né piazze vie a politici. Vorrei tra l'altro ricordare anche le sentenze di condanna nei confronti di Craxi, che sono state passate in giudicato, cui ha preso 5 anni e 6 mesi per corruzione, processo in insight, vado a memoria, 4 anni e 6 mesi per finanziamento illecito per le mazzette della metropolitana milanese, e poi insomma era già stato condannato in secondo e terzo grado di giudizio per altri reati, per un totale, se non sbaglio, di 4 anni e una multa di 20 miliardi di lire in primo grado per l'Olivera. Ecco, quello che volevo dire era appunto questo, cioè secondo me, non solo secondo me, anche riguardo in risposta a un altro, a un signore che poco innanzi disse che quanto riguarda Italia dei Valori o comunque l'odio nei confronti di Berlusconi non c'è, io non parlo solo a mio titolo personale ovviamente, ma penso di rappresentare, non dico rappresentare perché non sono all'altezza, ma quantomeno di parlare anche per altri esponenti di Italia e Valore, non c'è una forma d'odio nei confronti personali di Berlusconi o chi per lui, ma solamente non ricordiamoci che questo clima è stato proprio, insomma faccio un'altra parentesi, che ci si spassa il teretano con la bandiera tricolore non è stato certo l'Italia dei Valori a dirlo, che tutti quelli che buttano comunisti sono degli emeriti coglioni non è stato l'Italia dei Valori, neanche la Lega. Va bene, Sandro, lei fa il consigliere comunale? Sì, sono consigliere comunale. A Scandiano, di che partito? Italia dei Valori. Italia dei Valori. Bene, grazie. Grazie a lei. Arrivederci. Adolfo da Roma, buonasera. Buonasera, Grugiani. Dica. Io sono un ascoltatore della sua trasmissione di Radio 24 dall'inizio e della sua trasmissione quasi tutte le sere, però come l'ascoltatore di Messina certe volte fatico a seguirla perché lei è spezzante con alcuni ascoltatori e invece molto accondiscendente come stasera con Storace, e questo non, a me personalmente, chiaramente questa è la mia opinione, a me non piace, mi piace moltissimo la sua trasmissione quando ragiona, quando dà la possibilità a chi interviene di esporre la propria idea e quando poi lei chiaramente ragiona su questa idea. Nelle altre situazioni, come stasera quando ha tagliato corto sul discorso della ricerca, che secondo me è un argomento molto importante, lei l'ha tagliato perché siccome in Italia i soldi vengono sprecati, non ci sono per la ricerca. Guardi Adolfo, non ho detto questo, non ho detto chi se ne frega, ho detto semplicemente che no, questa trasmissione ho tagliato. Non è così, Adolfo. Stava parlando già da minuti, da diversi minuti l'ascoltatore, poi ha detto questa cosa sulla ricerca. Io ho detto: inutile impelagarci adesso su una discussione sulla ricerca, perché non siamo in grado di affrontarla in questa sede e non è la trasmissione giusta. Aggiungo adesso questa cosa qua. Ho detto semplicemente che secondo me il problema principale della ricerca non è tanto dare i fondi alla ricerca, finché ci sarà una spesa pubblica di questo tipo è difficile anche fare delle scelte. Questo è il mio parere, naturalmente può essere sbagliato, condivisibile, non condivisibile, eccetera, ma insomma non volevo né tagliare né iniziare una discussione sulla ricerca. Adolfo, tutto qui. Comunque ripeto, a me piace moltissimo, anche se spesso non sono d'accordo con lei, però questo non significa nulla, il bello è quando si ragiona, è molto bello quando si ragiona con idee opposte, no? Perché se poi uno è sempre d'accordo, alla fine i ragionamenti durano poco, però noto, e questo le do uno spunto di riflessione, io a lei penso, sì. Eh, io la vedo, come diceva anche, ripeto, vi sento altri ascoltatori, io sentivo Forbice era diventato insopportabile, arrogante, sprezzante, non si poteva parlare. Così guardi, allora fa un po' ogni tanto non si poteva parlare. Sì, d'accordo, ogni tanto un po' di, tra virgolette, di arroganza eccetera ci vuole, perché altrimenti non si governa nulla, è qualcosa, una trasmissione è qualcosa che va governata, cioè non può essere abbandonata. Sì, Adolfo, ogni tanto anche con tagliando, ogni tanto tagliando corto, comunque intervenendo a gamba tesa, perché altrimenti non se ne esce fuori spesso da alcune situazioni. Poi ci sono i tempi della trasmissione, ci sono i telegiornali da far sentire, la pubblicità, insomma cose che lei sa benissimo, perché mi sembra una persona con sale in zucca. Insomma, Adolfo, la ringrazio per il complimento. Però ad esempio anche nei confronti di Storace, a me di sentire quando si è levato le bende Berlusconi se si era già stato in Svizzera importa pochissimo. Beh, guardi, Adolfo, molto di più sapere Storace come si, che idee, che progetti porta. Sì, ma Adolfo, qui siamo dell'Azio. Sì, ma ho capito benissimo, Adolfo, ho capito quello che dice lei, però se lei si aspetta questo da questa trasmissione, beh, mi permetto di dirle che ha sbagliato indirizzo, perché qui non c'è l'approfondimento su quello che vuole fare Storace alle regionali e quali idee vuole portare per il governo del Lazio, perché se faccio una trasmissione di questo tipo dopo 5 minuti ci annoiamo tutti. Sentire da Storace che oggi ha visto Berlusconi che si era tolto le bende, che faccia ciao Berlusconi, per il tipo di trasmissione che faccio io è molto più interessante. Io penso questo, non è la sede giusta per capire i programmi elettorali di Storace. Io tra l'altro non sono nemmeno particolarmente interessato ai programmi elettorali né di Storace né della Polverini e né di quello che sarà il candidato di centrosinistra. Se devo sapere qualcosa mi leggo i giornali, vado su internet, non ascolto la radio. Almeno questa è la mia idea. Traffico. La Zanzara. Siamo qui alle 20.47, 800 24 00 24 con l'ultima parte della Zanzara, sempre al centro. Gli ascoltatori Frattini a Sky TG 24, sentiamo. È una sintonia di punti di vista. Le faccio solo un esempio. Noi, che non rinneghiamo mai gli amici, avevamo avuto una straordinaria amicizia con l'amministrazione Bush, ma avevamo avuto con quell'amministrazione una divergenza politica nell'atteggiamento con la Federazione Russa. Il presidente Obama ha riordinato i rapporti secondo la linea che Berlusconi ed io avevamo proposto, di non congelare i rapporti tra la Russia e la NATO, di non isolare la Russia anche dopo la crisi della Georgia. Vabbè, so, Frattini dice la sua sui rapporti con gli Stati Uniti in un'intervista a Paolo Saluzzi a Sky TG 24 pomeriggio, se non sbaglio, a Sky TG 24. E ha detto una cosa che riguarda il body scanner, che è questo nuovo marchingegno che alcuni propongono che venga introdotto per la sicurezza negli aeroporti. In realtà la prima volta in cui l'ha detto questa mattina era qui su Radio 24. Body scanner favorevole, Frattini? Ci sono diversi dubbi, non capisco i dubbi io francamente, che riguardano la privacy, su insomma tutte queste cose che servono, speriamo che servano per la sicurezza, non capisco quali sono i dubbi a introdurre subito, immediatamente, fra tre giorni, in tutti gli aeroporti in Italia. Francesco da Foggia, buonasera. Buonasera, io sto intervenendo su questa questione del centrosinistra pugliese per quanto riguarda il futuro candidato. Io ribadisco che, per quello che penso io, che il Partito Democratico abbia tutto il diritto e dovere di indicare il presidente, cioè il presidente, il candidato presidente alle future regionali. Sì, però dica chiaramente che non vuole Vendola, che è il presidente uscente di una coalizione di cui fa parte il Partito Democratico. Io ho una grande stima di Vendola e ritengo che abbia governato bene e il centrosinistra abbia avviato il buon governo in Puglia. E allora perché non dovrebbe essere confermato? E io ritengo che in questa situazione, siccome la realtà politica rispetto a 5 anni fa è cambiata, sulla figura attuale che io condivido di Francesco Boccia c'è una convergenza maggiore di forze politiche, e quindi con Francesco Boccia se aumentano le possibilità di vittoria e di impedire il ritorno del centrodestra in Puglia, no, al però, governo della Puglia. Sì, ma questo l'ho capito. Io ritengo una iattura. Però adesso, quindi, a prescindere dalla iattura o no, Francesco, io ho capito il suo ragionamento. Lei dice, siccome la candidatura di Boccia può aprire la coalizione, diciamo, all'UDC e forse anche all'Italia dei Valori, che ha rotto con Vendola, anche se poi Di Pietro dice che non ha rotto con Vendola, che là non si capisce, e allora perché non avviare questa operazione? A me sembra un po' un ragionamento da palazzo, francamente, cioè di somme che poi bisogna verificare poi a livello di voti. Le dico questo perché c'è un presidente uscente, lei dice che ha governato bene, è vero che la situazione politica è cambiata, però se questo presidente uscente pensa di ricandidarsi, non chiude nessuna forza politica, non capisco perché il Partito Democratico non può fare uno sforzo verso questo presidente uscente se pensa che abbia governato bene. Mi sembra che, siccome Bersani o forse anche D'Alema e Casini si erano accordati in modo diverso, allora Vendola debba essere sacrificato per questa nuova alleanza. Io lo capisco Vendola, cioè capisco la resistenza di Vendola da questo punto di vista, o no? Interpretazione è un'interpretazione molto riduttiva, perché vede che tutto si gioca su un accordo Bersani-D'Alema-Casini. Secondo me non è così, perché se su Vendola si fosse sviluppata una convergenza ampia, così come si sta sviluppando su Boccia, io ritengo che il Partito Democratico non avrebbe avuto nessuna difficoltà di sostenere Vendola. Ribaltiamo il ragionamento. Diciamo che Vendola, che è un grande dirigente politico, ha una lunghissima militanza, in un ambiente che io voglio dire rispetto, a questo punto dico, Vendola, nell'interesse della coalizione, nell'interesse della Puglia, che difficoltà ha di fare un passo indietro, che certamente non significa che vada a casa. No, però mi scusi Francesco, ma ho capito benissimo. Che continua a svolgere il suo ruolo di dirigente politico alla grande. Ho capito. E secondo me tutti i pugliesi, e in fatto modo quello del centro-sinistra, gli saranno grato per sempre. Va bene, però Francesco, adesso per concludere questa telefonata molto interessante, secondo lei non ha più possibilità di vincere il presidente uscente Vendola rispetto a, per esempio, Boccia, battuto dallo stesso Vendola 5 anni fa? Secondo me sì, ha più possibilità Vendola rispetto a Boccia, o no? Secondo me Vendola ha meno possibilità di vincere di Boccia. Va bene, e secondo me, questo è il problema, ha meno possibilità di vincere di Boccia. Va bene, grazie Francesco. Altri ascoltatori velocissimamente. Alberto da Brescia, buonasera. Buonasera a voi. Dica. Per quanto riguarda il vaccino dell'antinfluenzale, allora, io solo una considerazione pratica. Spendiamo un sacco di soldi per la difesa, per mantenere un esercito che nel caso di una guerra sicuramente serve, ma nel caso di pace non serve se non per le missioni che facciamo all'estero. Quindi una gran parte degli investimenti che facciamo sostanzialmente vanno a finire nel nulla. Ma perché nel nulla? Ci sono le missioni all'estero, non mi sembra che sia il nulla. Sì, ma tutto il resto dell'apparato, diciamo. Vabbè, le spese per la difesa negli ultimi anni sono molto ridotte per quello che riguarda il budget generale della difesa. Comunque, insomma, lasciamo perdere. Qual è il paragone che c'entrano i vaccini? Che nel momento in cui fossero serviti, sicuramente l'investimento sarebbe stato applaudito da tutti, anzi. Sì. C'era una corsa inizialmente perché non si trovavano, dovevamo sfruttare del tempo perché le farmaceutiche dovevano farli, eccetera, eccetera. Quando poi ci sono stati e grazie a Dio non sono serviti, direi che ci siamo semplicemente tutelati. Tutto qua. Il principio di prevenzione. La ringrazio Alberto, però è vero che molti dicevano che c'era allarmismo, eccetera. Su questo non c'è dubbio. C'è stato sempre un grande scetticismo intorno alle cifre, intorno alla necessità di una vaccinazione immediata. Antonio da Taranto, sempre Puglia, buonasera. Sì, sempre Puglia, buonasera. Dica. Anche perché forse a Taranto si parla molto e si combina poco. No, speriamo di no, insomma. No, è proprio così. Ascolti, lei non è di Taranto, scusi. Io vivo a Taranto, sono nato a Taranto ma sono veneto. Si sente un po'. Si sente un po'. Allora, ascolti, io sono un imprenditore. Sì. Ogni tanto sento parlare di queste storie, come nella sua trasmissione ora, dei finanziamenti europei che non vengono presi, che non vengono utilizzati, tutta una storia di questo tipo. Io ho delle esperienze personali in quel senso e le dico una cosa. Mi sembra che si discuta di questo argomento senza conoscerlo. perché questo argomento, quando ci sono dei finanziamenti pubblici, siano essi europei, regionali o quello che siano, sono incanalati in un fiume in cui quasi mai rispondono alle esigenze che l'imprenditoria ha nel momento preciso. Quasi sempre sono in ritardo rispetto a quello che l'imprenditore ha bisogno. Dunque non è vero come si dice che vengono sprecati o semplicemente sprecati, spesso non sono funzionali a quello agli imprenditori, diciamo, locali. Esatto, perché nel momento in cui lei ha un'azienda, qualunque essa sia, e deve sviluppare qualcosa, per cui si guarda intorno per vedere se ci sono dei finanziamenti, si ritrova un percorso da fare. Primo, uno studio che conosca bene tutti gli ammenicoli e quello che ci va dietro, perché non è una cosa semplice. Una volta che ha trovato lo studio, questo non le porta avanti il discorso per quello che le serve, le porta avanti per quello che i politici o i finanziamenti stanno chiedendo. Quindi quasi mai questo corrisponde alle necessità. Si lavora al contrario, cioè non si lavora dalla parte dell'imprenditore che dice voglio fare una pizzeria nuova, per intenderci, sì, oppure uno stabilimento industriale nuovo, ma si lavora dalla direzione politica che dice bisogna fare queste cose. Siccome il politico è in ritardo rispetto alle necessità dell'industria, sempre, e questi tempi lo dimostrano. Ma lì l'errore dove sta per quello che riguarda i fondi europei? Diciamo in chi li eroga, nel modo in cui li eroga, cioè dire l'Europa, oppure nella mediazione, diciamo, politica italiana? È la mediazione politica italiana, e le spiego perché, anche se non so se questo, perché questo argomento forse merita una discussione. Ma è un po' tecnico, sì. Però le dico questo: in Italia c'è una legge che si chiama legge Sabatini, che funziona da tanti anni per rifinanziare le imprese che hanno voglia di fare qualche cosa. Questa legge prevede un finanziamento restituibile in 5 anni con cambializzato. Semplicemente agendo su questa legge, dicendo su questa legge ti do una parte di finanziamento pubblico, lei si è tolto di mezzo tutto, perché si è tolto di mezzo, perché bisogna firmare cambiali per questo. Sì. Quindi lei si è tolto di mezzo gli imprenditori che vanno a prendersi i soldi e poi spariscono, si toglie di mezzo gli imprenditori del nord che trovano la soluzione nel sud, eccetera. Ho capito. Ma Gattuso, lei come l'ha presa? L'ha vista l'intervista di Gattuso questa mattina sul Corriere della Sera? No, ne ho sentito parlare da voi, ma io non credo che Gattuso sia in condizione di poter parlare di questo. Bene, grazie Antonio. Andiamo a Pistoia, Francesco, velocissimamente. Ah, buonasera. Dica. Buonasera Cruciani. Senta, io le volevo dire, volevo sfatare la grande menzogna, quella di Crassi latitante. Basta, stasera ci è cascato anche Storace. E Crassi è latitante, questo è Di Pietro che ha diffuso la Procura di Milano, eccetera. Anche Bruno Vespa, addirittura in una trasmissione di Porta a Porta, richiamò la... Perché non era latitante? Non era latitante? No, non era latitante. Ah, perché lei dice poi, latitante significa che non si sa dove sta. Latitante è questo. Dunque, latitante è colui che, innanzitutto latitante, participio presente del verbo latitare, eccetera, intensivo del verbo latere. Significa far perdere di sé ogni traccia, darsi alla macchia, rimpiattarsi, tenersi lontano dalla vista e tutto rintanarsi. Ora io mi chiedo, se Bettino Crassi dava a tutti l'indirizzo, il numero di telefono, se la sua casa era un cenacolo permanente di personaggi importanti e purtroppo, dico purtroppo, anche di medici, se decine di truppe televisive, compresa quella di Bruno Vespa, facevano la fila per andare a intervistarlo. E per... Come può essere definito latitante? Francesco, riprendiamo domani sulla definizione di latitante, però un flash da Teramo. Flavio, abbassatemi la sigla un attimo. Flavio. Sì, buonasera. Senta, io volevo tornare un attimo sulla questione del vaccino antinfluenzale. Per dirci allora, cosa? Sono un medico veterinario. Quindi ha ragione Gasparri? Adesso non so se si tratta di complotto. Secondo me? Sono... Secondo me? Come? Secondo me ha detto sì o no? Non so se si tratti di complotto, so soltanto che siccome sono state date una serie di inesattezze scientifiche di tutta questa questione... Cioè, esempio, le dosi sono esagerate di vaccini, quelle ordinate? Assolutamente. Riprendiamo domani anche con lei, il tema è molto interessante, 800 24 00 24, a domani 18:30. Radio 24, la passione si sente.